diretta. Una diretta in vacanza. Una... Tra l'altro mi sa che sarà... No. L'ultima sessione di vacanza. Beh, l'ultima una delle sessioni di Dungeon come ultima, poi magari giocheremo altre cose. Tu la prossima settimana te ne vai, o continuiamo senza di te? La prossima settimana? Porto sabato e torno a cavallo di Ferragosto. Ok, quindi... Torni a cavallo? Sì. Vabbè, cavallo comunque questo è intanto il 23. No, aspetta, possiamo prima che catta parta, possiamo fare l'ultima Atanas e Darmstrong di nuovo. Che ha funzionato molto bene. Esatto, quindi a posto. Quadratura stretta. L'8 sera. Vabbè, se hai qualcosa di divertente da propormi, se no va bene il puma, dai. Beh, c'è lo squalo. Che il gamberetto. Lo squalo, sì, vabbè, cerca di qualcosa di il un po' tasso, meno. Il toro. Il paguro. Il toro è figo. Sì, ma non è tanto. Vabbè, dammi l'allenamento, però. Mercoledì 7, ultima sessione prima di Ferragosto. Il canguro. Il canguro. Perché non martedì 6? Beh, ando c'è il rinuncerò. Perché io non posso più martedì. Perché? Da vantaggio. Perché... A persuasione i tre giorni in cui sarà aperta la battaglia quelli saranno che tu martedì, percepisci giovedì, venerdì. Che ti percepiscono come più forte di loro. Ah, una sorta di intimidire in pratica. Sì. Quindi anche Pale non ci sei giovedì. Scusa, esiste intimidire perché fanno sto ragionamento. Ah, dalla prossima. No, perché dice assumi la protettività. È vero che giovedì è già agosto, ma da vabbè, ti vedono come una. Se c'è qualcosa, te l'ho detto, di tra virgolette che aiuta la difesa. Non so come dirlo se non in termini di CA. La mia idea era quella. Sono tutte cose che si basano sulle prove. Sulle schive. Sì. No, infatti, detto quella del toro ti permette di sommare o la forza o la costituzione quando fai un tiro salvezza contro la paura invece della saggezza. Bello! No, non mi piace. No, era carino, però non così bello. Utile. Forse il puma è un po' più utile. Cos'è il puma? Puma posso scegliere due tra quattro abilità elencate per cui ho un bonus. Cioè tipo survival. Hai la competenza in due skill in più. Sì, beh, sì, scusa. Secondo me era carino quello. Mm-hmm. Dai, scelgo il puma. Ok. detto questo. Aspetta, ma non mi hai detto in quali. Ah, posso sceglierle io? Due di quelle quattro che ti ho detto. Mi ricordo solo, va bene. Cazzo, scemo. Acrobazia, atletica, survival e un'altra che non mi ricordo, stealth. Scelgo stealth e acrobatics perché le altre due le ho più 5 in acrobatics per essere un tamugno nano barbaro, mi piace. Invece di camminare fare proprio anche in stealth. Salute. Però silenziosamente in stealth. Bene. Oh. Quindi vi sentirete correre come un montone e ruggire come correre come un montone. Scusa, che verso fa il puma? Come un gamberetto. Bella. Il puma. Ah no, no, scusa, è il montone. Il puma sì, ruggisce. A volte sì. Il puma è come la tigre. Non lo so, eri tu l'esperto di versi degli animali. Cerchiamo i versi degli animali. Cominciano ad esserci un po' troppi animali in questa compagnia. Solo non si vedono. In effetti sì. Tra Giulio, che ha vari animali, te che ne hai due, l'altro che diventa un animale, l'altro un pipistrello, io adesso l'alce. Un pipistrello. Mastro è un maiale. Non c'è così tanto lì. Beh, in realtà no. Lui è morto per dire. Non so, Ci stavo. Guarda il cocco del master. Guarda lì, primo banco, sempre a prendere appunti. Invece di morire diventa sempre più potente. Esatto. grazie Katta, settimo livello, grazie per aver scritto il messaggio privato. È vero, l'unico che ha fatto, però, ha fatto l'operazione che è diventato barato adesso, le tette nuove. No, si è rifatto le labbra. Il puma e la tigre ruggiscono o soffiano? Come i gatti. Cioè, soffiano nel senso come fanno i gatti. No. Credo che sia una mossa anche del puma. Sì. Soffiando soffio del puma. Perché sono nei... Infatti, se fava le tre porcellini era un puma, non era un lupo. Cazzo. Vabbè, ragazzi, prima che Vess ci lasci, direi di cominciare. Che dire, 23esimo episodio. Ma che stai guardando una maestra di gatta? Sì, ma mi sa che ho l'asma. Bene. Così riprendiamo dopo il grazie, ancora non mi sto prendendo. Riprendiamo dopo l'episodio speciale dei due best friends BFF. Sì, lì però ce l'ho. Che ci verrà riassunto dagli unici due presenti. Lavorano al 40% del perché video. Questa cosa? Boh, non è, non è. Ma perché non va? Perché oggi è la giornata mondiale dell'amicizia. Spesso quindi ti dobbiamo menare. No. Spesso abusiamo della parola amicizia. Esatto. Allora, nell'ultimo episodio io mi sono svegliato nel cimitero fuori a... Com'è che si chiama la città? Rex. Rex. Domanda. Rex. Se non occupa più di 5 minuti posso avere un super mini riassunto della trasformazione di Giulio? Cioè, io mi sono svegliato nel cimitero di Krex. Lui si è addormentato qua, per mano del... dell'abate, okay, e mi finito. Sono svegliato. Ah, ok, posto, allora non perdo niente. No, l'altra volta avevamo visto un po' di forme, no? Cioè, anche tu? Mi sono svegliato, mi sono tastato, ho il viso da sciacallo, ho degli occhi che... rispecchia la personalità. Che vedono al buio. E ho le branchie. Beh, tu lo dici come se fosse una cosa vera. Esatto, Vez, mello. Bulletto 6. Poi ho le branchie. Le branchie. Beh, come ogni sciacallo che si scusa, ma... ogni sciacallo che si Perché? Perché no. Ti punta una bomba? Ho i polmoni. Cosa che hai detto? Qua è sfuggito. Ho i polmoni e ho anche le branchie. Ah, okay, certo. Ah no, i polmoni! No, i polmoni. Era quella che dicevo. Sarebbe un problema. Tipo, vai in giro con una mega maschera intorno a te. Ho delle branchie da tritone qua sul collo. Da tutto da polombare al contrario. Sono stesso una cosa, ma una cosa estetica. Non fa tipo. Blablabla, tipo Zoidberg. No. Take me on. Minito. Sepolto con me c'è una scatola che contiene il. Un pipistrello di Salla con due messaggi. Di Reis con due messaggi. Uno da parte di Reis che mi dice che siete alla vigna e uno da parte di Bayern che dice che mi ha aiutato lui a sopravvivere a, all'operazione, che ero conciato abbastanza male, bla bla. Ah. Questo sera al bar. Esatto. Se voglio passare al bar più frequentemente di una volta al mese posso, però. Vedi il tizio non c'è il. Cioè, oh! Mi sveglio nel cimitero! Ma non fa sempre parte del complesso. No. Fuori dalla città. No, fuori dalla città. Ah, scusa. Pensavo fosse un cimitero. Mi sveglio dentro una bara che sfondo. No, ok, questo l'ho capito. Pensavo fossi dentro la proprietà no, del. Sono fuori dalla città. Della bara. Sono fuori dalla città. Ok. Quindi mi metto sulle vostre tracce. Arrivo al fiume. Okay. Arrivo al fiume, all'incrocio lì, il solito fiume. E c'è un, percepisco un branco di lupi. Quindi mi nascondo sotto il ponte. I lupi passano, mi sgamano. E quindi si buttano in acqua per venirmi ad attaccare i stupidi lupi. Quindi io mi butto in acqua e. Avendo le branchie. E gli i lupi si tuffano a cazzo per che lupi ti hanno fatto. Mi lascio cadere in. Cioè cado in realtà su uno e lo uccido. E poi ingaggio un breve duello con gli altri perché poi io mi lascio cadere affondare, tanto io respiro. E quindi ne uccido un altro paio tirandoli giù. E loro poi sopravvissuti. Io esco e arrivo alla vigna. Zap a vigna. Mi imbosco un attimo in una. Dietro a. La vinicola ma noi, no? Sì. In questo avevamo già fatto il fight, no? Cronologicamente, ora è successo mentre noi. L'avete già fatto. Arrivo la sera, di notte. Mi infratto dietro a una serie di. Viti. No, come cazzo si chiamano? Balli di fieno. Balli di fieno. E nel frattempo Racebat torna da Race. Wow. E avverte Race che sono lì. E Race me lo dice. Dice, ah, cioè, è arrivato Atanas, è qui fuori, si è nascosto qua. Non è rimasto uguale o... Hai creato un nome ad hoc per la tua nuova creatura o rimane uguale? No. Non vuoi mettere l'ultima lettera all'inizio, no? Come vuoi cosa? Vivere? Per dirti. No, sin dai, se finale Satana. Quindi uscite. Tipo venite verso lì la balla di fieno in cui sono nascosto e gli diamo fuoco. Esatto. E va Aristran, dice: Atanas, esci, sappiamo che sei, pagherai per i tuoi tributi. No, però io esco con le spade estratte, tenute così in mano in alto, e l'arco tenuto con le altre due braccia che sono esatto. No, per il resto sei normale. Cioè, ma è la testa proprio di uno sciacallo o è solo un po' di sembianza? No, la testa di uno sciacallo. Cosa vuol dire? No, le braccia sono due, le gambe sono due. Ha cioè. La cazzo di una traccia di un cane. Di ma è proprio la testa completamente sostituita da quella di uno sciacallo. È presente Anubi? Più o meno. Un po' come testa. Cazzo, vi ho fatto anche... Cioè, vi ho fatto... Sì, l'ho intravista, ma non volevo spoilerarmi niente nel caso del mio personaggio. Certo, scemo. Grande. Più o meno è così. In realtà c'ho un cappuccio. Come dei croccantini per cane. In realtà c'ho un cappuccio, voi non vedete bene. Però a un certo punto mi mostro. Mi rimetto il cappuccio sopra. In realtà parlo con Badestran che mi chiede. Ma parli normale? Sì. No. Parlo, non si capisce a fatica quello che dico perché c'ho un muso da sciacallo. Parli di 4 punti al carisma, però. Già carisma 9, cioè. Ah, sì, va bene. Ma un po' di come il vecchio personaggio di Giulio. Grande Cypher. Era 5, perfetto. Sì. Cazzo, era praticamente... però in realtà, per dire, lui aveva... Cioè, era, ad alto pratico, in realtà era molto carismatico. No, era il capo della compagnia, ma per... ufficiosamente per mancanza di oltre per puro potere per di mancanza fuoco. Di carisma del vero leader effettivamente no perché il vero leader era palesemente un coglione disadattato e quindi salutiamo il problema. Beh, in effetti aveva poche capacità ma con quello stavolta se me l'ha detto come è andato il doppio tennis. Io so che sono stati stuprati male Fede Ema, sì, deduco che la colpa è tutta di Ema, però volevo avere una... Boh, sì, penso. Il fatto che nessuno ti abbia risposto è stato effettivamente... Scusa che se mi direi... Vabbè, che paura non ha mai, non ha mai giocato, è normale, cioè... È come se io dicessi, mi piace l'hockey su ghiaccio, facciamo una partita di hockey. Cioè, finisce al pronto soccorso. Sono lì che striscio sul ghiaccio. Cioè, beh, dai, ragazzi, però a rugby abbiamo giocato un po' di volte. Pronto soccorso. Vero, rugby abbiamo giocato. Sì, ma a parte che nessuno di noi aveva giocato. E poi sì, dipende, cioè, ci sono giocato. Alcuni sport che sono più attivi. Ma come tu a basket, sei stato stuprato da me. Il tennis è abbastanza tecnico, comunque. Vabbè, torniamo, scusate, riassunto. Il basket ho 10 anni, però. Appunto. Non è uguale. Ti ho stuprato. Tranquillo Arce, faremo il rematch. In realtà è vero. Comunque ti ho passato. Comunque Arce, se ti scappa tu puoi anche fare fallo. Ma no, vabbè, tipo, io un paio di falli aveva bisogno. Io un paio di falli su Fede li ho fatti a un certo punto. No, ma non si sono. Vabbè, comunque torniamo fare. Scusate questa parentesi in cui io vinco. Il fallo è un'arma tattica. Soprattutto dove non si contano i falli, non ci sono i tiri liberi. Vabbè, ne ho fatti al massimo 3 in una partita. Sta scherzando, sta scherzando. Al 3 al massimo in un'azione. Mi ha colpito solo 3 braccia. È vero. E inoltre io non li chiamo mai quelli su di me, quindi sono... Okay. Comunque. Comunque, vabbè, siamo lì. Siamo lì, ci siamo ritrovati e bla bla bla. Solo un'ultima domanda sull'aspetto, è riconoscibile? Hai le stesse vestiti che... Cioè, la prossima volta... No, chiedo. No, perché avevo la faccia di uno sciacallo. Vabbè, però la corporatura è la mia, chiaro. Un sacchetto in testa, cioè non ti vedo la testa, ti riconosco. Non è riconoscibile, però i vestiti sono i miei. Cioè, che poi non sono i miei, l'armatura è quella del borgomastro che abbiamo ammazzato, però guardaci la puntata la prossima volta, non capito. Non l'ho guardata, pensavo di non spoilerare. Non avevi chiesto le cose? No, adesso no, era andato via quando lui si stava per trasformare. Era andato via prima. Che Kat ha giocato apposta prima la nostra parte perché sapeva che... Comunque, una volta che il gruppo si è riunito, bla bla bla, siamo entrati in casa, siamo riposati, e poi c'è stata la cosa di portare il vino, che c'era il problema di portare il vino a fratello, a Ballachi, Perché qui e... c'è il vino, non avevo ancora accertato questa cosa. Allora, nella vineria c'è ancora del vino. E c'era che un in realtà... vagone pronto per... c'era un carro di vino pronto. Esatto, del vino pronto per essere proprio spedito. Verrà spedito a Vallati, se ho capito esatto. bene. E poi c'erano delle botti di vino novello che deve essere imbottigliato. E che deve essere anche sanato perché... Ma però l'aveva poi fatto. Però da quando in quando sto lavoro adesso è produrre vino. Beh, tecnicamente è l'unica quest da fare. Comunque, l'altra cosa che abbiamo scoperto è che qui nella vigna riuscivano a coltivare la vigna perché c'erano queste tre gemme magiche. E quindi noi ci mettiamo in inseguimento. Tre gemme praticamente ognuna. Che quindi ora non ci sono. No. Che sono state rubate. Le gemme erano dentro la terra e permettevano di fare diversi tipi di vino. Ora una è stata persa secoli fa, cioè o decenni fa. Anni, non troppi però. Però abbiamo un guanto di metallo e vogliamo mettere le gemme adesso. Esatto. Che è quello dello champagne, quindi champagne aveva già salutato. Vabbè, ma fa cagare. E poi altre due sono state prese di recente da Thanos. E l'ultima dai druidi che l'hanno data a Thanos. Esatto, una secondo loro ce l'ha la strega e l'altra dovrebbe averla presa i druidi. Allora ci siamo divisi, tipo voi siete andati a scortare la carovana. Prima fu rubato, siete andati, sì, 10 anni fa siete andati, no, siete avete scortato il carro la verso, la, verso la strada per Vallacchi, poi tornerete indietro. E noi siamo andati ai Davio e Smeralda, siamo andati alla collina dei druidi. Siamo andati, abbiamo ucciso, abbiamo preso la pietra e siamo andati. Esatto, lì praticamente. Sì. Sostanzialmente lì c'era una specie di enorme. Tutto a posto. C'era questa collina con praticamente dei cerchi di tombe. E sulla cima c'era l'albero malvagio e una statua che ricordava tipo Strad, sostanzialmente una statua di vitici, esatto, e noi l'abbiamo bruciata e abbiamo sconfitto dentro. Tu hai bruciato una statua raffigurante Strad? Non l'ho bruciata io, non ho toccato. Tu non bruci le cose? Vez con le torce. Io ho solo ucciso i druidi. I barbari non sono riuscito perché mi hanno stillato le kill, bastardi. Ma c'erano scritte qualcosa, no? C'era solo questa statua lì così. Abbiamo praticamente di fatto desunto che si trattasse di un rituale per riportare in vita la statua. Praticamente si dar vita alla statua o qualcosa del genere. Però l'abbiamo fermato e lui di in pratica Vez ha rischiato, anzi Barbistrain ha rischiato le penne anche perché a un certo punto del combattimento e Smeralda ha fatto invisibilità superiore. Ma sì, diciamo che io sarei andato giù più volte ed poi è scomparsa. Alla fine ce la siamo giocata e vabbè, comunque abbiamo ucciso la roba, preso la pietra, abbiamo lasciato stare l'albero e siamo tornati indietro. Ma l'albero è tipo magico? L'albero è quello che crea vitici maligni. Quindi in realtà avrebbe fatto bene. Che Vez aveva 12 punti ferita. Ah, cioè, io ho esaurito tutto. Erano abbastanza peste. No, okay. E in realtà anche Smeralda era messa male. Anche. Allora, potremmo tornarci tutti insieme. Perché? Sono miei amici i vitici maligni, ne ho salvato anche uno. Cioè. E poi comunque senza la gemma dovrebbe essere meno potente. La gemma. Sì. No, più che altro i druidi non hanno più il bastone, quindi non possono più comandare. Il motivo per cui hanno preso la gemma è semplicemente per fare un dispetto, cioè non far avere il vino, o c'è un altro motivo per cui la gemma stava spiegando. No, la gemma abbiamo un po' indagato la cosa, sostanzialmente. È per il rituale, per far vivere sta statua. Era proprio per quello. Sì, quello sì, diciamo che non abbiamo ben capito se probabilmente i druidi non agiscono direttamente per Strad, ma comunque per compiacere Strad in qualche modo. E io gli ho ridato il tesoro, ma loro ci hanno dato una parte del tesoro che ci dobbiamo dividere tra di noi. Ma mi verrà dato quando sarà giù. Tecnicamente non sappiamo neanche. No, vabbè, c'eravate. Che io gli ho ridato le robe che avevano trovato nel mio scrigno. Ah, quindi eravamo già tornati anche noi. Loro ci hanno dato di quelle robe lì 20 monete d'oro e due gemme da 50 monete d'oro l'una. E ti diceva che l'immagine raffigurata nel ciondolo invece è la sua defunta moglie. Esatto, fondamentale. Che essendo morta. non se ne fa più niente. Comunque la fine della scorsa sessione è stata noi che torniamo verso la vigna con io che prendo un braccio di un barbaro e iniziamo a morsicarlo. A un barbaro ho anche strappato la faccia a morsi. Okay. Sono uno sciacallo. Avrebbe fatto lo stesso. Ma tu puoi sciarmare gli animali? Non sono un animale. Puoi sciarmare la testa di Giuse. E l'organo respiratorio sott'acqua. I branchi. Chiudetevi. Va bene, quindi adesso siamo tutti alla vigna. No, nella catta. No, sì, vi state. Ah, no. Raccogliere allora, voi che stavate per andare. Noi stavamo tornando alla vigna e con io che sto smangiucchiando un braccio. Ah, ma è vero, quindi non è una che sta veramente mangiando. Sì, ho strappato il braccio a uno. Cioè, ti devo raccontare tutto. Mentre no, poi loro stavano prendendo. Quindi mangi carne umana? Adesso sì. Ok. Beh, hai presente il pappagallo con la testa nella tazza? Sta tornando il nostro Giulio, che bello. Pensa aver avuto la testa dentro la chiesa. Nessuno dei miei pensa poter mangiare quelle persone che nessuno ti stanno nessuno dei miei personaggi aveva mangiato carne umana. Quindi è un upgrade questo. Scusa, ho la testa da sciacallo, per me adesso è molto difficoltoso mangiare come le persone normali, quindi mi arrangio. Ok, non ho mai cioè, sarebbe stato scandaloso mangiare uno sciacallo, invece adesso. Esatto. Ma non è che i cani in generale. Cosa vuol dire Giulio che è più comodo mangiarsi la carne umana? Sì, che il ragionamento è. È già lì, pronta. È molto scomodo per me mangiare del pollo o del maiale come gli altri. Invece la carne umana è facilissima. Esatto. Okay. Beh, non può più mangiare sì, sciacallo che le braccia del barbaro erano molto appetitose. Non mi piaceva lo sciacallo. Stai lavorando. Ma davanti un. Sì, anche l'altra volta partecipando a un corso in questo modo. Lo mando avanti, sono 60 ore di corso. Quindi fai finta di fare un corso? Rez, si fanno così i corsi, cioè non c'è tempo per farli, per farli, per seguirli. Si fanno, si mandano avanti. Okay. Vabbè, ma una delle domande di quello dell'altra volta era dove sono state create le ba... No, le bolle. Quello era molto, sì, è vero. In realtà questi sono un pochino più specifici, ma... Molto bene. Tiro a caso, comunque. Vi ricongiungete alla vigna. Ho anche strappato tutte le teste dei cadaveri. Sì, ma mentre lui faceva tutte queste. Era molto Giulio, però. Ma mentre faceva tutte queste cosine, tipo lui mangiare esseri umani. Mi stava prendendo la pietra. Tu va bene? Cioè, occhio tipo buono Giulio. Io non vedo. Tipo buono Giulio, buono. Con guinzaglio. Lui si è messo così e ha detto: io non vedo. No, io ovviamente. Messo il guinzaglio io ovviamente buono, disprezzo buono. Sta cosa, però è Giulio. Va bene, passiamo. Sì, a un certo punto anche mentre strappavo la faccia al baro, la che sono cosa mancata. Più importante che hanno scoperto. Cioè che si sapeva, ma avevate avuto la conferma che i proprietari della vigna, la famiglia proprietaria della vigna, tiene su una organizzazione segreta. Quello che ci aveva detto. Quello che sospettava Rittavio, però sono degli sfigati. Non so, dall'inizio lo chiamo Vito. Però dato che sono appunto una associazione segreta, non riusciva ad infiltrarsi e a ottenere la loro fiducia. Adesso che li avete liberato a casa, però sì, di fatto lui era venuto qui per questo. Sì, in realtà non abbiamo ben capito. Non abbiamo ben capito. Se non beh, se è chiaro che... veramente a Strad. No, sono degli sfigati. Forse per questo però, no, tra l'altro, tra di loro andiamo a morire. Sfigati no, perché hanno i corpi. Ho fallito il test sulla saggezza, ragazzi. Mi spiace. Sfigati no, perché hanno comunque i corvi che vanno in giro per il mondo e vedono tutto, quindi quella in realtà è abbastanza figo. Però sì, non, vero, sono diciamo che non si sono voluti veramente esporre, hanno parlato di Strad come il maligno, ma in realtà ci facevano affari. Ma ci facevano anche affari. Vabbè, forse per Pietro vivere non possono esporsi apertamente. D'altronde se una testa arriva un ordine, cosa gli dici? No, non te lo do perché mi stai quello dico, per Pietro vivere sì. Forse non... È così che funzionano le sanzioni internazionali. Tu non puoi vendere le cose che magari non sono l'ONU, sono un negozietto. No, e allora sono colpevoli. Comunque dai, torniamo alla vigna con la gemma. Colpevoli. Mi riportate a casa la gemma e il vecchio Urwin è molto contento di voi. Aspetta, non ho detto. Il vecchio hai ragione. Gli dai la gemma? Sì. È molto contento di voi. Ma chi è questo? Martinkov il vecchio, Urwin si chiama, Davian. Davian. Perché Urwin non lo segnava. Urwin mi sa che stava per vendicarmi di scemo. Urwin mi sa che è il figlio che lavora. Stavo aspettando il cielo per reazione. La paura. Anche se temevo che giorni di sempre di Vest no, a favore. Sei ancora vivo. Vest non puoi andare aspirazioni. Che domanda allora. È la prova manda di qua. Vi aggiornate reciprocamente, loro vi raccontano che cosa hanno visto alla collina. E spero tu l'abbia finito dopo 4 ore. Speriamo a questo punto sì. Di aver dato un bel colpo all'organizzazione dei druidi, visto che comunque ne abbiamo ammazzati 6 di druidi, se non sbaglio. Sì, no, di più. Cioè, 5 solo alla 6 druidi e 6 barbari. Ah, poi ci sono quelli che erano morti qui. No, appunto dico, erano 6 druidi, mi sa. 6. Cioè, non so quanti cazzo di druidi ci quindi sono. Quindi, no, 10 sono stati fatti fuori in totale. Sono erano 4 qua dentro la vigna. Poi non si sa quanti ce ne siano effettivamente là fuori, però almeno decine di migliaia. Almeno una piccola vittoria. È come gli stregoni in Avengers Endgame, che improvvisamente sono 60 milioni di compagni. Voi invece vi siete gentilmente offerti di scortare il carro che portava il vino a Ballacchi alla locanda del figlio. E chiaramente non siete entrati in città, avete fatto da scorta per la strada e poi li avete fatti entrare fare la consegna e li avete riportati indietro. Mentre andavate là, due stormi di corvi volavano sopra le vostre teste e pattugliavano i dintorni per assicurarvi un viaggio sicuro. Il che fa pensare che fosse inutile che voi scattasse, ma avanti su questo aspetto. Quelli fanno da vedette, se però arriva qualcuno dritto sul carro non fanno molto del cielo. Ma per fortuna il viaggio è andato tranquillamente. Durante il vostro viaggio avete scoperto alcune cose. Innanzitutto siete passati vicino alla collina dove stavano. E adesso a Ballacchi ordina. Sì, regna no, l'ordine. Ordina regno. Ordina il regno. E, appunto nella collina dove c'erano i vistani al centro intorno sì. alle casette con gli elfi. I vistani non ci sono più. Avete scortato. Gli elfi ci sono ancora. Gli elfi ci sono ancora. Avete scortato il carretto, sono Casimir era con loro ed è andato a vedere come fosse la situazione fuori, ovviamente lui non è entrato, è rimasto con voi. E, quando sono ritornati vi hanno descritto la situazione. E, il nuovo borgomastro è la signora Bakhtar. Vallachi è stata rinominata in Vaktargrad. Bella Vaktargrad. Che nome è così leggero. Ma offesa. Ma Vaktargrad. Sì, sono stati vietati per legge i festival da qui alla fine dei tempi. Sembra giusto. Parlo dei festival di? No, sono vietati i festival fino alla fine dei tempi. Okay. E la neanche la sagra del cinghialetto, neanche la sagra, sagra del lupo, esatto, soprattutto le sagre. E, è stata annunciata una nuova era di pace. E la Repubblica sarà riorganizzata nel primo impero galattico. Okay. Un emissario del conte è stato accolto come diplomatico in città e quindi si è stato fatto un patto di un trattato di pace tra loro e il conte firmato da questo interposto e praticamente viene garantito di non venire spazzati via, obliterati, nessun atto bellico verrà mosso contro la città. In cambio ogni anno un giovane e una giovane dovranno essere mandati al castello. È un santo. Beh, noi abbiamo un giovane. Mi fa piacere vedere che comunque alla fine le cose sono sistemate anche per me. Nel modo migliore. No, Vaktargrad. Vaktargrad. Scusa, ma ora, visto che tu hai la pressione per Irina perché non dobbiamo dargliela, ora ogni anno tu tiri i fili per evitare che questa coppia di giovani venga data. L'idea di base sarebbe eliminare il problema alla radice, in teoria. Beh, in realtà stiamo solo a altra cosa che chiaramente passaggio. Va là che è stato un buco dell'acqua, no? Altra cosa che il mio più grande successo è che padre Lucian è morto. Il padre del figlio che abbiamo ucciso all'inizio. No, sì. No. Quello che sostanzialmente sarebbe stato protetto dalle ossa se Sandalo gliele avesse saccheggiate tutte. No, quello della chiesa. Quello dell'inizio. Il prete. Prete della chiesa dove abbiamo fatto tutto quello. La strage. Sì, esatto. Strage. No, quello è stato il mio più grande successo. Forse sì. Penso di essere riuscito a cannolare la bellissima. Fuori. Anzi, va bene. Fuori. E quindi morto di cosa? È stato trovato morto nella sua stanza di notte. Mm-hmm. Perché uno entrava nella sua stanza di notte per trovarlo morto? Considera che la chiesa sarebbe stata protetta se Sallan avesse rubato le ossa. Ma sei morto di infarto anche per le ossa? Sì, probabilmente. A parte che sappiamo che non hanno scoperto le cause della morte, che Alex Vallachi, ora Vaktargrad, la gente tende comunque a cadere sulle lame, questo va detto. Scivola, cade, probabilmente bagnato. Esatto. E c'è una lama anche casualmente. Capita. La taverna era come cazzo si chiamano i vistani, che ovviamente non ci sono più nell'accampamento, sono stati fatti entrare a Vallachi, rompendo quindi, cioè, dopo che è stato abrogato il bando, come si dice, il divieto, grazie, del precedente borgomastro. Beh, e adesso costituiscono loro la guardia cittadina, dato che non c'era. Ah, giusto. Ops. Cosa avevo capito? I vistani dell'accampamento li hanno fatti entrare in città e li hanno resi la nuova guardia cittadina, visto che c'era una carenza di guardie cittadine in città. Non chi so, non sa so come mai. Sembra il primo problema scivoloso sulle lame. Sì, già. Beh, quello è un peccato. In realtà io non vedo la guardia cittadina, stava comunque io non vedo. Sì, metà l'abbiamo ammazzata. Io non vedo il fallimento di Vallachi, anzi. Io vedo che Vaktargrad è molto meglio di Vallachi. Vaktargrad. Non vedo. Vabbè, ok, perché due ragazzini una volta l'anno vengono portati là. Sì, che poi cioè e zingari pattugliano le strade. E poi non sappiamo neanche, magari vanno a fare la bella vita, cioè. È vero, adesso la polizia è fatta dagli zingari, che ironia. E infatti cosa ci fa quel poliziotto vicino ai canali della spesa? Portatelo via. No, guardate. Causa abbastanza problemi al Martinkov, che gestisce la locanda, perché fanno i bulli, arrivano lì, pretendono da bere e non pagano. Dai, da riga, andiamo a fare fuori la nuova guardia cittadina. Come tradizione. Dopo portano gli enti a fare la guardia cittadina e dopo dovrò uccidere anche gli enti. E quindi, infatti, quando sono arrivati a portare il carretto, è stato annotato dalla guardia cittadina, che ha prontamente confiscato quasi metà del contenuto per dei controlli di mare distribuito. Ora loro confiscano invece che rubare. Che merda. Giusto. Confisca proletaria. Anche proletaria, sono gli zingari. Dei ladri. I zingari nell'orso mi hanno bruciati. A sentire questa notizia, ovviamente, Rictavio stringe i pugni nelle mani e digrigna i denti, pensando al modo con cui portarne all'inferno il più possibile. È vero, è un genocida. Questo è quello che ho ucciso tutti gli zingari. Sì, il vostro alleato. È Salvini. Il nostro alleato. Altre novità della città. No, chiedo. Ma si chiama? No, questo va devo uccidere gli zingari. Rictavio. Rictavio. Cioè, la prima volta l'avete conosciuto come Rictavio. In realtà si chiama Rudolf van Richten, il cacciatore di Adolf van Richten. Oh, Ribbentrop. Bene. Bene. Ascoltando il vostro racconto, i due anziani, Davian e Van Richten, appunto, discutono, cercando di capire come meglio procedere. Come sempre fanno gli anziani. Esatto. è chiaro, vi dico, briscolina, è chiaro che i druidi volevano utilizzare il potere della pietra per animare quella specie di fantoccio gigante e usarlo per sferrare un attacco che avrebbe devastato completamente la vineria. E di sicuro cercheranno di riprendersi la pietra se noi non attacchiamo prima. No, c'è un unico modo. E inoltre la pietra va distrutta, così non potranno riprenderla. Però ti servono tutte le pietre per distrutto. Infatti si fanno così questi corsi, anche questa assicurazione universitaria. Quindi conviene, sarà quando dovrò farle quello serio, però conviene attaccarli ora che sono fortemente indeboliti, e soprattutto sulla collina è rimasto ancora l'albero di Gultias, che finché rimane finché rimane vivo, vi dice, continuerà a creare arbusti maligni. Sai cosa fanno gli alberi? Cosa fanno gli alberi? Filtrano l'anidride carbonica. Tu vuoi riscaldamento globale? Oh, non credo. Ray, se i tuoi figli andranno ad abbattere l'albero, mentre noi andremo dalla strega a recuperare l'altra gemma. Ray abbatterà i tuoi figli mentre vanno all'albero. Cosa è? Ray abbatterà i suoi figli. Siamo già all'albero. Sei un druido! Vabbè, ma magari c'è un albero che ha inclinato la natura. Che vabbè, noi quattro andiamo dalla strega, gli altri vanno dalla collina. Volete affrontare Baba Lisaga nella sua palude? Perché magari è troppo forte. È una creatura antica, domanda, e malvagia. Una ce l'aveva i druidi, una ce l'ha la strega, la terza si sa che fine abbia fatto. È scomparsa da 10 anni fa, non si sa che fine abbia fatto. Parli. Perché dici che non siamo in grado? Perché non solo è una dotata di incredibili poteri magici, ma adesso ha anche il potere della pietra. E quindi voi basta questa pietra qui, non volevate recuperare l'altra? No, conviene, dato che anche lei è da anni che prova ad insidiarci con i suoi pupazzetti. Vabbè, a sto punto una pattuglia di spaventapasseri animati che ogni tanto manda a distruggere le nostre coltivazioni. Se non sapete difendermi neanche di spaventapasseri, secondo me allontanarci da qui e lasciare la sempre difesa. La gemma incustodita riporterebbe i druidi, per me ad un facile riappropriarsi. Quindi cosa andiamo? Nelle foreste a cercare? Non è conviene. Sicuramente la cima della collina è sicuramente dissacrata. Arrivare lì e... Abbiamo ucciso tutti quelli che c'erano in collina. Però comunque... Dico l'albero per crescere ha bisogno di un terreno che sia maledetto. Se noi riuscissimo invece a consacrare quel terreno... Che ironia che ironia. Quando io abbia fatto per Divine Sense non c'è nulla di dissacrato. Perché eri a più di 60 piedi. Pezzo di merda? Cosa vuol dire? La cazzo di collina sarà il terreno dissacrato? O quei 3 centimetri attorno al... Ah beh, allora basta che mi porti una palettina, rimuova il pezzo di terra e siamo tutti a posto. Lo metto in una bustina e via. Esattamente. Non prendere il master pezzo. Comunque sì, purtroppo l'albero era al di là del tuo divine sense, altrimenti avresti notato che il terreno nel cui giace è dissacrato. Non cambiava nulla anche se avessi saputo cosa facevi. Quindi appunto, sì. Perché non me l'hai detto? Questo divine cioè, possibilità di consacrarlo. Può crescere solo su un terreno dissacrato? Forse può nascere su un terreno qualsiasi. Io ho un'idea, andiamo lì. Non so se è la sua presenza che lo rende tale o lo sradichiamo e come si riproduce. Ma lui siamo presi. Ok, nasce perché qualcuno ci pianta un ramoscello che è già maledetto. Ma di un altro dell'albero, un altro albero tipo di Gultias. Facciamo un'ipotesi. Se io prendessi dei rami, fai una bella talea, dai. E li piantassi qui nella vigna. Al posto delle viti che non servono a niente. Così. Non so cosa succederebbe, non so se è la presenza dell'albero che tiene il terreno dissacrato o è il terreno dissacrato che permette all'albero di crescere. È per questo che esiste l'esperimento. In ogni caso a noi non interessa, basta andare lì, tagliare l'albero. È un albero. Perché c'è tutta questa tragedia per stare? Tagliamo il film. Infatti non capisco cosa sia. No, cioè tipo alto 6 metri. Avete sgozzato bambini, ammazzato vecchi, ucciso famiglie, ora per una pianta questo bordello. Ma sei un druido! Un albero maledetto! Sì, va bene. Questa è solo una versione della storia. Solo una versione della storia. Andiamo lì armati, pronti a difenderci e spacchiamo sto cazzo di albero di merda. Sì. Prendiamo i rametti e piantiamoli per tutto. No! Tu non lo sai. Parte dei croccantini per cani. Non mangio croccantini per cani, sono un sciacallo. Porta dei croccantini per sciacallo. Sono le braccia degli esseri umani. Fai tu il corso di Vezza. Se volessi fare il corso di Vezza. Imperativo distruggere quest'arbusto. Presto, andiamo. Bravo. Sì, dopo un riposo lungo. Bravo, Sir Vargarans. Dopo un riposo lungo. Cioè, in realtà a me non cambia, a te che cambia. Ad Atanas non cambia, ma lo spenderemo comunque un riposo lungo. Mi si è messo a verbale. Sembra impazzito il nostro druido, il nostro paladino. Sembra. Tutto è pronto ormai. Da quando fa questi turni a Ferrara abbiamo perso il paladino. Che sera è questa sera? Che notte è questa notte? In che senso? È una domanda un po' filosofica È una mera questione di calendario. Nella vita vera? No. 15 brumaio. Cosa succedeva il 15 brumaio sera? Ma ci stai perculando? No, che gli occhinavano Robespierre. Hanno prenotato in una taverna. Guardavo la pagina Wikipedia. Mica c'era il sushi di Paolo. È sempre bello guardare le pagine Wikipedia. E Vez invece è masturbarti. Vieni qua a vedere. Vez, cosa succedeva il 15 brumaio? Perché c'ero passato alla pagina di Cromwell. Che non mi ricordavo assolutamente. Che un po' l'Inghilterra è stata una repubblica quando lui ha tagliato la testa al re. Non state divagando? Sai quando arrivi, inizi da Wikipedia in un punto. Lo sai che se, sì, che se tu ci provi in una pagina qualsiasi arrivi in quella di Hitler in 6 pagine. Vabbè, con un ambito minimo. No, cercando di andarci ovviamente. Però sì, non a caso. Se utilizzi Zac Efron in 6 pagine, fai pagina casuale. E poi da quella a logica da quella pagina casuale. Poi partendo da quella pagina, da una che vuoi 6 click arrivi a quella di Hitler. Cioè se vuoi da qualunque cosa Wikipedia, puoi arrivare in 6 click. Wikipedia, una pagina così. Tipo Wikipedia Jessica Hamp. Scusate, vi ho lasciato un attimo, ho sentito parlare di Zac Efron e Adolf Hitler. Sì, sono la stessa persona. Sì, è che probabilmente sono connessi. Sono la stessa persona, grazie. Dicono che da una qualunque pagina di Wikipedia in 6 click puoi arrivare, in 6 link puoi arrivare a Hitler. Vediamo. Fu così che finì il 30. Beh, interessante. Vabbè, guarda, proviamo ad esempio la pagina di Sciacallo. Vabbè, Sciacallo, vabbè. Carlo. No, grazie. Perché vai volte nobiltà deserto, Rommel, vabbè, grazie Giulio. Vabbè. Devi cercare cose che non hanno praticamente senso con cos'hai cercato? Tipo Adolf. Sono altro. Terzo Rai. Teletubbies. Vabbè, cazzo, non scrivi. Ma non con i satani che Giulio devi cercare tipo. Teletubbies, paese, Regno Unito. Clicchi subito su Regno Unito. Esatto, storia. Storia, esatto. Germania, Adolf Hitler. Vabbè, sì. Vedono. Cioè, ho i tutti i cucchiai da lavare. Quindi. The Rock. Tu arci lo so. Vuoi del gelato? No. Figlio di. The Rock fai, lui è statunitense, clicchi Stati Uniti. Non ti fa cliccare su Stati Uniti? No, vabbè, devi partire da lui. Però aspetta, sto cercando, ecco. The Rock. Boh, ah, devi cliccare qua. Sì. Ognuno si prende il suo, direi. Quindi uno, avete fatto un click, Sì. Sì. Donald Trump. Prova con Sterno Credo, ma sto ideo se vuoi. È uguale, so fai. Va bene, tipico organo. Andiamo sta cosa. Mi stavo dicendo, grazie. Che notte è questa notte? Magari sta domanda qua. Che giorno è? Che notte 15 Brumani. No, arriva a strada. Oh, bravo, Inspiration. No, non ce l'avevo, grande. Ah, che deve arrivare all'abbazia? Sì. Sono passati due giorni sì, da quando c'è vale, vale, sarà arrivato WhatsApp. se io ho il canale, c'è Facebook che dice strada nelle vicinanze, manda un saluto. Ha aggiunto su Tinder. Esatto. Perché sono passati. Seconda guerra mondiale devo andare, no? Puoi arrivarci anche per altri modi, cioè. No, perché o invasione nazista tipo si fa parte della Polonia, invasione nazista, basta basta, la De Rocca però. Sì, la invasa De Rocca la Germania nazista, penso che sia abbastanza facile, non lo nominano Germania nazista, poi posso andare su qua stato ellenico. Ma... oppure 1933. Legato quindi a sia il cacciatore che Smeralda sono qui con noi. Sì. Che dicono a riguardo? È una vita di Germania nazista. Quando improvvisamente mi viene in mente che è quella riguardo notte, di cosa? Vabbè, ma lui non si fresco, quindi perfetto. In teoria Smeralda doveva rimanere là apposta. Inizialmente l'idea era quella. Ma voi gli avete detto è un suicidio, vieni con noi. E quindi sarebbe perfetto, adesso è della Kresk, però lui non si fa Kresk. Esatto. Ah certo, potremmo avercela addosso a breve. Ah, esatto. La batte sa dove era lui. Beh, se che fa... ne sa che qua la batte sa che è in una. Forse. Dipende quanto è stato bravo Bayern. Ma il discorso è iniziale in è sempre quello. Però lui, se è vero quella storia del patto che ha fatto sia lui che sale, in teoria. Da quello che abbiamo capito sanno comunque dov'è e cosa sta facendo più o meno. Quello sì, vero. Quindi è più facile divinarmi nel caso di una divinazione, è diverso. Da quello che sanno i nostri personaggi può sapere quando vuole dove sei. No. Sapete, vi ha detto, è più facile divinarmi, ma non è niente. Vabbè, ma può farlo anche con voi, semplicemente è un po' più facile con me, con Sala, sì, ma può farlo con tutti. Non è Vabbè, ma perché... per strada noi dobbiamo per forza essere a Kresk? No, noi dobbiamo andare a Kresk per i fatti suoi. Sì, esatto. È un'informazione a vostro vantaggio, voi sapete che quella sera lui è... che non è il castello. Che non è il castello. Tutto il castello di strada. Sarebbe stato un'idea. La mattina arriva un Korn e si mette a parlare con Davian. Un piccolo uccello nero con un becco liberale, con molto uccelli dotto e il si mette a parlare, forse che l'ha un attimo. Esatto, portatelo via, è impazzito. Beh, un attimo, fate detto da un druido, cazzo. Io sono uno scienziato, non parlo di animali. Ci faccio l'esperienza. Ho chiacchierato qualche minuto, il corvo vola via e mentre state facendo colazione vi dice: col corvo è successo qualcosa stanotte a Kresk. Se che sorpresa, c'è del fumo che si alza da ora si chiama Abategrad. Nessuno si alza dalle mura, secondo me strada non ha preso benissimo, sentite molte urla nella notte, dei fuochi, del rumore di costruzione. Beh, probabilmente, probabilmente l'esperimento della Bate non è andato a buon fine. Perché non aveva? Non vedo la sposa. Sul serio? No, sul serio! Dio mio, che cosa? No, Pilota dopo di pezzi. Non proprio. Sto giro non proprio. Beh, sei tu che gli hai dato fuoco stavolta. Beh, non, nessuno è andato a vedere se era sopravvissuto. No, no, per quello che sapevi. Cioè, sì, mi sembra. Però con tutto il rispetto. Va bene il vino, è ok. Ah, vabbè, il vino adesso va bene. Cioè, io capisco, però. Cioè. Cioè, mi hai dato fare. Perfetto, Però. L'abito. Ma senza abito la sposa. Senza abito la sposa. Niente, basta. Devo dare fuoco a tutto. Forte! Sì, in effetti è andata così. E voi vedete un santo. Non è andata proprio così, ma voi non c'è stato uomo. Ah, vabbè, in realtà non sapevo la mia idea di cosa succede. No, sì, ma questo va a immaginare una follia. Questo che gli ha riportato il corvo, questo trambusto, è stato all'abbazia o in città in generale? In città. Poi andiamo ad uccidere un altro burgomastro. All'abbazia. La follia sì, di siamo strada. Già arrivati tardi. Ah, ok, quindi è davvero Battecrat forse. No, però probabilmente può essere venuto a sapere, se non lo sapeva già, di quello che è stato fatto a te e quello perché che hai fatto tu in città. Perché avrebbe dovuto dire? Beh, cioè, dici Strad? No. Magari l'abate gliel'ha detto. L'abate ha chiamato Strad dicendo ha fatto un capolavoro. In realtà quello che potrebbe aver fatto incazzare Strad, se l'ha saputo, è che Irina è passata di qua e l'abate non l'ha. Ma probabilmente la madre non si rende neanche conto di tutte queste cose. In realtà sì, la madre si è. Oppure ancora peggio che i suoi fedeli Giulio e Salla non sono più al suo servizio. Che ha detto? Chi ha detto che è al servizio? In realtà stanno trasferta. Stanno riuscendo, trasferta. Stanno riuscendo nell'impresa di far convertire un paladino, quindi. Va bene. Non dobbiamo indugiare oltre. Le strade del Signore sono infinite. Allora. Sì. Andiamo a distruggere la. Stavo pensando se interessarci di quello che è successo a Kresk, ma. C'è la mia faccia a Kresk. È che è esattamente dall'altra parte della mappa, stato. Giusto? In questo momento sì. Sul bambino. È esattamente dall'altra parte della mappa, praticamente, in questo momento Kresk. È molto lontana dalla linea, no? No. Ne vuoi ancora? No, posso, grazie. Ne vuoi ancora? Sure. No, sì, secondo posto, te lo lascio. Ma io gliela ho scattato una te finita. Se non ci fosse la foresta e il fiume in mezzo e l'una d'aria sarebbero tre ore, solo che devi per fare la deviazione per arrivare al sì, ponte ci vuole una giornata a piedi ci vogliono 5 ore. Ah, sono più lontano da qui 6 quindi a cavallo in quindi due, a cavallo 3 volendo in 3 ore siamo a Kresk, ci interessa? No, e allora andiamo là. Ok. Boh, andiamo prima all'albero, poi io voglio andare a Kresk, devo vedere dove è finita la mia faccia. Ma dai che prende a fuoco un albero e tirare giù, c'è un peso. Prendo il secondo. Sì, però è un albero maledetto, ci troveremo contro un sacco di rametti. Combatteremo contro dei fiumi. Speriamo che non siano troppo veloci. Vai, andiamo. Ok. Operazione albero. Posso chiedere ai tizi no. Un barile d'olio? Sì. Un barilotto d'olio? Infiammabile. Olio di che tipo? Tipo pece. D'oliva. Che? Sì. E vedi che troviamo un orto con dei pomodori. E degli stracci. Parole. Che tipo di. Cosa è che tipo di olio? Olio di motore, dai, che domande? Olio di gomito. Di stracci quanti ne vuoi? Di olio di stracci alcuni stracci che tipo di stracci? Tipo di stracci straccione vuol dire straccione e vuol dire che vuoi fare delle volto tipo che ne so una tovaglia sì questi, quanti ne vuoi una tovaglia di stracci di olio non ne hanno molto anche perché con le riserve sono un po' allora ci diamo del vino però sai, se per vuoi quanto pare una boccetta solo che del vino te la posso dare una boccetta di olio dell'acqua ho capito dare fuoco all'albero ma in che modo devo contirmi l'insalata. Che buono. Non mangiami la carne umana allora. Secondo me l'albero. I giorni in cui devo star leggero faccio insalata di carne umana. Secondo me l'albero lo. Gli diamo fuoco così. Ti leghiamo all'albero e cominciamo a sputarti. Solo prima o poi no. Devo sfregarti. sull'albero per scansare gli sputi. No, non capivo, non capivo gli stracci. Vedete, con gli stracci bagnati ti colpiamo, anche lì muovendoti secondo ti, me. Ti metto la tovaglia addosso, poi ti rovescio l'olio sopra, è una domanda seria, ti do fuoco e ti faccio correre. Mi metto a domani che riparti l'olio del fuoco, non capivo gli stracci. Schiacci l'aglio. O d'olio. Magari voglio l'aglio. Pulire dal sangue. Aggiungi la cipolla. Dal sangue. Che gli alberi adesso sanguinano. No, ma le altre cose sì. Ma tu stai capendo quello che dice. Tutto è buono. Ma tu lo odia. Allora, anche avete fatto una sessione da solo e vi siete diventati best friends forever. Che cazzo è? Nel senso, allora. Chiaramente. Noi ci conosciamo da anni. Allora. Sì, ho capito. Adesso che sei diventato sciacallo, gli stai più simpatico. A quanto pare roba. Bastava cambiarmi la faccia. Non mi sta simpatico. Semplicemente il discorso è che io, cioè, nel senso, lui lo do da un punto di vista mentale per perso. Ma quello. Cioè, prima già era molto grave. Adesso è totalmente fuori controllo. Più anch'io sono comunque un po' più fuori. Quindi non mi fido molto. Quindi. Quindi lo lascio fare. No, quindi in questo momento per me sostanzialmente, cioè, non è più tipo il ok, salviamo tutti. Cioè, okay, c'è chi può essere salvato e merita di essere salvato e chi non è senza speranza. Oh, i cittadini di serie B, vaglielo dire a quelli che moriranno. No, bello, i druidi malvagi che seguono Strad e sti cazzi. Se sono dei coglioni, se quindi loro, adesso posso uccidere un po' se la loro fine prevede quella di essere depaggiati da Giulio è poco male. Quindi ce l'hai con i druidi. Io ho un passo di Raviva Strad. Adesso, siamo quasi. Basta che convinco che quelle che le persone che voglio uccidere sono condannate alla storia. Vamo. Irina, secondo me, ormai è condannata alla storia. Irina è insalvabile. No, senso, non gli strappo la faccia solo perché poi in strada strapperebbe a me. Cioè, tipo i malvagi, lo dico a Rega, i malvagi, mi raccomando, trattiamoli bene, trattiamoli con l'onore. No, questo era ovvio. Beh, no, l'ho detto, cioè il paladino iper. Ma non, tu non sei quel paladino. Esatto, io lo so. È da questo che si distingue uno stato democratico. Vabbè, in questo momento in cui non siamo. C'è un paladino. Io gli ho rotto le palle quando ha ucciso i genitori di un bambino, del bambino. No, non l'ho visto, infatti, no. Però gli ho rotto le palle. Quando ha ucciso il tizio che voleva affogare la pistana. Vabbè, voleva affogarla. Ma intanto era una pistana. Non lo sapevi ancora. Parliamo da questo punto di vista. No, vabbè, poi comunque era una persona normale, cioè nel senso che okay, ci stava che venisse processato. Capiamo cosa sta facendo prima di intervenire. Esatto. Invece se era il druido malvagio che fa il rituale, ah, viva Strad, se arriva lui gli mangia una gamba, dico vabbè, fa un po' schifo, però vabbè, sì, poco male. Uguale. No, vabbè, solamente se come gli italiani che contano per il ragazzo legato e del moto. Cosa? Pensavo che fosse illegale ammanettare le persone, invece è illegale. Cosa vuol dire illegale ammanettare le persone? Quando, quando una persona viene arrestata, a meno che fotografare, no, no, no, anche ammanettare, a meno che non ci sia necessità perché la persona è violenta, pericolosa, cosa. E lì devi anche chiedere scusa. Se tu vai a arrestare uno a casa e lui viene con te, non finisce, non gli puoi mettere le manette. Ah, ok, sì, in quel senso sì. Capito, se non oppone resistenza, che però è un po' assurdo, nel senso che tu, cioè, ti fidi. Come fai a sapere se opporrà resistenza? Cioè l'idea è che tu gli metti le manette proprio perché lui non può. No, se tu lo arresti nel mentre sta succedendo qualcosa gliele puoi mettere, chiaramente. Ma se ad esempio quando vanno a casa di qualcuno per arrestarlo, dici, in Italia non puoi mettergli le manette. Cioè devi portarlo in Svizzera, la manetta lo riporti in Italia. Cioè se adesso entra qualcuno per arrestarti e tu non opponi resistenza, se dici dobbiamo portarla in questura, dice se arrivo e va. Tempo di finire la peperonata sulla porta. Esatto, no. Anzi, se ti mettono le manette è un reato, compiono un reato. Pensate, vabbè. Sì, direi che se ti ammazzano, però a quanto pare no. Sono distratto. Va bene. Tra l'altro è uscito il caso di una ragazzina morta 18 anni fa. Sì, è morta in una casa. Ma non è che è vecchissimo questo. È 18 anni fa? No, è uscito per noi. Che era stato per noi. Per noi 18 anni fa. Sì, per te. Per me 19, però dico è uscita. No, è uscita, dico. Dovrebbe essere che meno fosse, per che te. Fosse colpa della polizia già da un po'. Sì, ma hai l'indagine. Dall'ultimo anno. Vabbè, l'ultimo anno comunque sono 17 anni fa. Cioè, per lei... noi. No, sì, ma io l'ho letto già l'anno scorso. Ma il rinvio a giudizio chiesto c'è stato adesso, ad esempio. No. Vabbè, comunque. Dovevamo strappare braccia penso e... Penso che in America succeda. Comunque vabbè. Beh, è chiaro, non vedo l'America come un esempio di civiltà. No, nel senso per me. Cioè, sono cose che purtroppo succedono. Ok. Chi mi tira un di 20? Io. No, io. Ho fatto un cazzo di sessione. Uno. Boh! No, catta, per favore. Non è di, non è di quei 20 di, dai, 20 è di gruppo, è di gruppo, vero? No, non è di gruppo. Okay. No, non è uno di quei 20 per... Forse, forse è un bene aver fatto uno. Sì, cioè è uguale, non credo che sia così fondamentale. Invece... Boh, l'altra volta che ho fatto 20 avevo trovato uno scalpo. Perché non tiravo di 30? Quanto hai fatto? Uno ho fatto. Di 30. Ah, di 30 quanto aveva fatto, ha chiesto? Cosa? Lui ha detto quanto aveva fatto il di 30. 17. Perché? Perché io voglio sapere. Ok. Va bene, vai Arci, tira un di 20. Boom! Muti tutti! 20! Allora comunque per la... mi date i miei dadi comunque li fanno 20. Cosa sono i tuoi dadi? Ma... I dadi sono io, li... è tre anni che giochiamo. Tu hai dei dadi? È questo, ad esempio, guarda. Tu nella vita hai dei dadi? Sì. Però ne ho degli altri D&D, tu mi sono in tanti. Puoi portare con una volta andassi in altà a prendere i dadi da noi. Beh, sono quando ce ne sono 2000 qua, cioè. Sì, esatto. Cazzo dici? Ma che cazzate che dici da 1 a 10? Ecco, 16. Starate lì. Io mi muovo in stealth. Così, lo fa 20 volte e segna. Okay. Oh, mi ero fatto 20. Svolta lì. 9. Io non tiro niente. Inizia di dipende che cosa vuoi inizia fare. Di tirare un dado. Lasciate di giocare. Tiro un dado a 20. 12. Sì, 12. Quindi 12. Il piano ora è andare a raccogliere i fiori e poi basta. Ma mi sembra di tirare un dado con un senso o per il gusto di farmi tirare un dado? Per farti stare zitto, scemo. Così lo tiri, se dici il numero, ecco. 4. Funziona. Okay, okay. 4 su 20 è un buon risultato. Ah, vedi, continua a parlare, forse mi fa l'interno. Allora, arrivo bene. Tira un di 4. Io? Sì. Diviso 2. 2. 4. Ok. 2. Un altro. Altro. Grazie, Sceo. Grazie, bravo. Un di 4 druidi, un di 4 golem. Davvero? Sì. Davvero? Ha fatto di nuovo, bravo. È fronte a lui, eh. No, come un di 4 golem? Sì, era un di 4 druidi e un di 4 cose. No, barba, dai, scusa. Non sarà dai. Che cazzo ne so io? Mannari, magari. Non faccio mai tiri alti. Bene. Fortuna che sul di 20 draghi Giulio ha fatto uno. Il viaggio prosegue tranquillamente. Mentre vi avvicinate, Sceo, senti una voce. Una voce profonda. Vedi che dovevo scegliere il pipistrello per ascoltare meglio. Ti parla di conquista, di guerra e di sangue. Perché parla Sceo? Che è totalmente incapace. Ci sarà una finta qualche... Deve stare geloso, giusto? Ma voi? No, cioè, non lo sapete, voi vedete Garrosh che si guarda in giro. Saranno sbabbari. Ah, i barbari che, abbiamo stuprato. Barbari! Conquista la ti incita a venire verso la collina. Vieni qui con noi dalla collina. Posso, cioè, tu sei anche la mia coscienza. Il mio istinto è di andarci o l'ascolto in maniera fredda e decido io cosa fare? Cioè mi sta ammaliando? No, non ti sta ammaliando, però è una cosa abbastanza soprannaturale, veramente. Ok, vabbè, lo riferisco. Cioè, sentite anche voi. Le tue scoreggio. Ma è pericoloso, se devo stare attento. Sento una voce. Ma stai ucciso tu? Sì, tu per continua con le mie. Sento una voce che mi convince a lottare, a conquistare, ad andare. Mi porta verso la cima della collina. Mi pare che stiamo conquistando. Capisco quella voce, è l'ambizione. Ce l'ho anch'io. No, la riconosco la voce maschile, femminile. Maschile, sì, ti ho detto una voce maschile. Di un uomo possente. Non sei tu. Vabbè, devi portare pazienza e respirare. No, vabbè, seriamente dico a. Chissà se ai loro personaggi ancora buoni. Di andare ancora più cauti, gli avviso di questa voce. Sono lontano dalla voce. Probabilmente la carne ormai non è più tanto buona. Dei cadaveri sulla collina. La sento. Non è che adesso che la testa sta di mangiare 24 su 24. La sento da una. Cioè, mi porta ad andare verso la cima della collina. Verso la collina. È passato almeno 8 ore. Vabbè. Andiamo verso la collina e vi dico attenti, c'è questa voce che mi parla nella testa. No, non lo so. Forse, che ne so. Fammi fare un tiro. Non posso certo mangiare cereali, yogurt e cereali. Non ci mangia neanche noi. 17. Tu sai che nella collina, quando ci arrivate li vedete anche voi, per tutto il perimetro ci sono due linee di tumuli. No, ma avevamo già visti, fortunati. Loro, però non avevano parlato. Loro? No, è la prima volta che ci vengono. Straccione. Alzo una gamba e più scesa no. Senti questa voce provenire dai tumuli. Cioè, provenire, non è che la senti fisicamente, sì, ma nella tua testa. E appunto ti incita dicendoti di provare il tuo valore, di riportare il terrore in queste terre, non ce ne fosse già abbastanza, però queste tombe sono di antichi barbari che vivevano in queste terre appunto. L'incantesimo dei morti, una grande battaglia un tempo qui ci fu. Esatto, praticamente sì, è come se avessi questo qua che fa il tifo per il massacro e il sangue. Bene. Ok, un po' inquietante. No, cosa dici? Troppo gli altri. Giri con una persona con la testa da sciacallo e le branchie. E che mangia gambe di druidi. Era il braccio di un barbaro, però. Questa è la collina. Ah, la prossima volta. Po' di chece. Con la gamba di cera. Un circolo di pietra. Ogni tot minuti vedete un fulmine che si. Sì, è vero. Schianta contro il recinto. Però non ci ha colpito. Il recinto. Recinto di pietra. Allora lì si è aggiustati e c'era la e c'era la statua. Ah, queste sono pietre. Quindi l'albero è là, è dall'altro sì, lato. Sì, esatto. Quello, invece al centro c'è l'albero grande e intorno ci sono tanti alberelli. L'albero grande come l'hai detto? È facile intuire che sia uno. In realtà noi siamo arrivati fino al cerchio di pietra. Al cerchio e non c'erano grossi problemi. No. Per cui potremmo tornare lì e da lì muovere. Quindi all'albero non siete mai, vi siete mai avvicinati? No. Però al cerchio di pietra siamo arrivati, in teoria lì dovrebbe essere risolto tutto. Ci siete entrati proprio nel cerchio? Sì, abbiamo ammazzato la gente. Abbiamo bruciato la statua. Ah, giusto, avete bruciato la statua. Ma non e abbiamo tolto la pietra. No, però da lì potremmo muovere verso l'albero invece di andare lungo il perimetro. Cioè noi stiamo arrivando semplicemente dalla strada. Sì, perché l'albero è lì, cioè che cazzo dobbiamo muovere verso l'albero. Dai, facciamo sta prova di stealth di gruppo. Prego. Oh, ora un più 5 io stealth. Mi muovo come un puma. 8. Io ho svantaggio. Bam! Puma! 6! Puma ruggente! E ricordate che ho un più 5. Io ho svantaggio, vero? Sì. Io non ho vantaggio se sono un puma. E chi ha vantaggio? È comunque no, uguale, 7. Beh, praticamente siamo entrati. Io ho fatto 11. Con gli standard alzati, no? Ti ricordi tutte le volte non in città. Esatto. Vabbè, ok. Ehi, un pezzo di pane. No, io posso fare un perception. Certo. Ah, io ho vantaggio su perception. Ci sono alberini nascosti. Cioè quelli vivi nel senso puoi provare, o druidi, insomma, faccio un perception generale. Lo ritiro. No, va bene. Diciamo. Sei. Ok. Nel manuale degli animali. Sì, Sì, perception tutti, vado anch'io. Non ci sono anche, infatti c'è no. Qua in trend, scusa. Mi sembra di ricordare che ci siano gli animali scrausi, se vuoi controllo. Ti serve quello o no? No, adesso no, perché catta la mestruazione. Tanto ti fai evocare, tanto ti fai evocare solo con gli scrausi. No, devo trasformarmi. Sprite, oh, bella, una bella lattina divento. Le tue orecchie da sciacallo percepiscono una voce proveniente dal centro bello. Sergio Dragon. Il centro del cerchio. Panther. E cosa dice sta voce? Urla degli orni. Tipo. Fai questo, fai quello, vai di là, vai di c'è qua. Qualcuno che urla ordini al centro del cerchio di pietra. Brutta storia. Noi siamo già in vista. State salendo sulla collina. Ci siamo decisamente annunciati, direi. Ma non lo sapete. State cercando di andare su che lingua? Qua. Beh, in comune, visto che... Come immaginavo, Katta. In comune, perché immagino che non sia elfico celestiale. Non è né elfico né celestiale. Comune, quindi, perché ho capito cosa diceva. Ma lui in teoria tra di loro non parla del comune, però. No, ma ordina ordini tipo militare, no? L'armatista. Giant Constrictor Snake. I druidi che avete incontrato l'altra volta fra di loro parlavano comune. Vi è capitato di sentirli parlare fra di loro? Urlavano, diciamo. No, sì, ok, però la mia faccia. In comune. Non lo so, la mia faccia è una mia interpretazione. Tu West lo sai. Ma sicuramente lo parlano, secondo però me no, comune, ma secondo me tra di loro no. Comunque quello mi sembra strano che parli in comune, quello può dirlo e secondo me fra di loro parlano druidi. Chi può dirlo? Ha detto che sono ordini marziali. Beh, sì, dalla mia matita. Sono ordini marziali, tipo, no? In che senso marziali? Quello con la gomma, questa merda. Cioè, militari. Militari, tipo. Bravo. Fai un negrero che gli schiavi. Ok, è più uno schiavista con i suoi schiavetti. Abbiamo assolutamente una sorta di orgia di chi si tratta. Quindi qualcuno deve andare in esplorazione. Io posso andare in esplorazione. Oppure un pipistrello. Sì, ma scusate. O l'alce o arce. Ah no, andiamo l'alce. Dove siamo noi, Katta? Un po' alzarsi dei risparmi. Ok, diciamo sì, quando ho fatto la prova, dove siamo esattamente? Decidi tu. Possiamo alzarsi il pipistrello. Sì, vabbè, cioè, scusa, siamo qua tu, e andiamo avanti, fine. Rega, allora, io ho sentito gli ordini che siamo qua, il centro del cerchio è qui, continuiamo ad andare dritti. Fine. Ma sarebbe buono provare. Ma tanto ormai ci ha percepito. Non lo sappiamo. Vabbè, Dio sì, hai ragione, non lo sappiamo. Per cui in realtà se vedessimo chi potremmo riuscire magari a avvicinarci di soppiatto. Va bene. Ok, ma nessuno di noi è cioè... Se no si avvicina... O mandi all'alce o arci, oppure in teoria a quanto pare Sceo è lui potere. Ma io semplicemente posso fare un buon tiro di stealth. Tutto lì il mio, la mia abilità in più. Potresti colpirlo. Sì. Questo, ma per quello ti ho detto che il sesto livello è una chiavica anche per me. Io semplicemente ho preso due nuove abilità. Ma è quello è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Che tu faccia un buon tiro di stealth. Ma l'abbiamo già fatto di gruppo. Sì. Adesso da solo provo ad andarci. Tu ci andrai. Però, nel senso, io posso... Serve lui che faccia step. Io posso solo fare un buon tiro di step. No, va bene, ho capito. Ti basta? Vuoi di più? Puttanella. È esattamente quello che volevo che tu facessi. 25. Sì. Garrosh in avvicinamento. Guarda, tu con il tuo 25 della Lega è stato perfetto. Questo, chi è questo? Ok, voi quanto state dietro? Siamo fermi dove eravamo. Okay. Step vuol dire che non mi vedono più neanche i miei compagni, comunque. Mi nascondo anche da loro. Sì. Non puoi nasconderti in piena vista, purtroppo. Giratevi un attimo, rega. Ok. Arrivi al bordo del cerchio di pietra. Sì, se è abbastanza alto mi ci accudo dietro. Di garanzia generale. È alto parecchio. Io parecchio, sono un nano. Quindi posso non è un recinto, è un cerchio. Strano che l'albero non si è fuggito. Il nostro nemico. Guarda, rimane lì. Impossibile. Non ho mai visto un albero così coraggioso. Come affronta il suo destino. Strafottente il suo immobilismo. Ancorato alla vita. Non hai paura, non fuggi. Il cerchio di pietre è alto dai, in alcuni punti 5, in alcuni punti 10 piedi. Vabbè, mi accuccio dietro e guardo uno. No, penso che tu sia... è alto tipo un piede. No, però 5 piedi sono un metro e mezzo, quindi... Mi chino, già ci sono dietro un bel po'. Forse non devo neanche... No, in piedi, dai, in piedi. No, per essere sicuro di non essere visto mi sarà alto come me. Sei un cazzo di bello. No, un po' di più. No, beh, potresti essere anche 1,60. Scegli un 10% e tira un dado percentuale. E vediamo quanto sei alto. Da 90 a 100, scegli. Anzi, da 91 a 100. Secondo me dovresti scegliere da 0,1 a 10. Ora si sceglie la cosa intermedia, da 25 a 13. Ok. È il mio numero fortunato. Cioè, comunque è andato più vicino a me. 13 è il mio numero quanto fortunato. Quanto hai fatto, scusa? 13. 13 minuti. E infatti, fortunatamente, il fulmine che cade non cade nel punto in cui sei tu. Perché puoi nasconderti, ma non dal... Ah, è vero che ha detto che ogni 2 minuti cade un fulmine, giusto? Io ti ho detto che nessuno ci ha colpito. Ma noi non siamo, siamo nascosti vicino alle pietre. Ok, nel frattempo cosa vedo in questi 4 minuti che utilizzerò prima di allontanarmi? Qualche minuto adesso, non so, ho detto 4 minuti. Sbirci dentro il cerchio. Al centro c'è una donna. Ed è, sì, tu non l'hai mai vista prima, è vestita con una tunica lunga nera e praticamente sta comandando a bacchetta alcuni gente dei boschi perché si mettano a costruire qualche cosa dove prima c'era un cumulo di macerie. Gente dei boschi, druidi e barbari. Okay. Ce ne sono in totale 6. Ok. Donne. No, druidi e barbari più lei. Più lei. Lei non è un druido, o sì, non è un druido. È un è una donna. Come tutte donne sono streghe. Portamento nobile, ha una tunica nera. Attraverso la quale non penso tu abbia una visione a raggiungere. No, però magari ha un bastone, no, non ha altro. No, non ha un bastone. Ok. Delle mani molto curate, con dei gioielli alle dita e... Ok, lentamente, se vuoi... È una nobile. Grida ordini a destra e manca. Se vuoi faccio un altro tiro, torno indietro. Ma è giovane o vecchio? È giovane o vecchio? Le mani sono aggrinzite o sono... No, è giovane. Se prima che arrivi un altro fulmine torno giù piano piano e racconto a loro ciò che ho visto. Vi racconta quello che ho visto. Vi descrivo la donna e vi dico che sta dando, come dicevi tu, ordini a bacchetta alle gente dei boschi perché ipotizzo ricostruiscano quello che voi avete distrutto. È tempo di andare lì. Andiamo su e vediamo avete cosa c'è. Questa donna, l'avete mai vista prima? Una tizia incappucciata di nero. Anche può essere chiunque. Anche perché per ora l'hai vista solo tu. L'hai vista solo tu. No, però è giovane e bella ingioiellata. Cioè invece che... Una donna giovane e ingioiellata. Potrebbe essere chiunque. C'è il sole? No, perché... Vabbè, le nubi, dove, dalle quali vengono giù. Potrebbe essere anche una del moglie di Strad, per quello che ne so. Come sai a pensare parecchio? Sciaccando. Devo dire sciaccando i pubblici. Andiamo e vediamo. Oh, caricare con l'alce se non sembra una brutta idea. Che fa un po' rituale per l'alce. L'alce tecnicamente il paladino avrebbe dovuto dire proprio con l'alce. Non so, vedi tu. Non so, è semplicemente una donna. I druidi sono malvagi però. I druidi, ma lei non lo sai. Sì, però se lei comanda dei druidi. E ricostruiscono la statua di Strad. Vabbè, potrebbero essere riportate sulla retta via che finisce nel mio stomaco. Nel mio retto, della mia. Insomma, beh, allora parliamoci lì e proviamo a parlare. Sì, mi piace. Però studio saranno sicuramente ostili. Oppure potremmo fare una cosa scenicamente carina di circondarli. tipo tre di noi si allarga. Se no, l'alternativa è passarli oltre e andare all'albero, dare fuoco all'albero, però in teoria se l'albero senza dovrebbe... essere visti è molto difficile, secondo me. Non è secondo me impossibile, però il problema è che potrebbero apparire tutti gli arbusti in mezzo all'albero. Più loro. E quindi quello potrebbe essere un problema. Quindi in realtà non la rischierei, perché sennò sarebbe stato figo, darvi fuoco all'albero. Oppure tre di noi si avvicinano per parlarle e nel frattempo un quarto dà fuoco all'albero. Beh, che qualcuno resti dietro, nascosto, pronto a darci manforte, non è una brutta idea. No, no, dico proprio, oppure potremmo dividerci a coppie, due di noi stanno qui e magari parlano, prendono tempo e due vanno a dare fuoco all'albero. Cosa vuoi? Vabbè, alla fine siamo comunque lì, non è a distanza. Cioè non ci dividiamo così tanto, capito? Io direi che io e Giulio potremmo pararci davanti a loro e voi due intanto rimanete dietro al muretto pronti a intervenire. Noi andiamo a... Che chi mi hai preso? L'albero. Va di strada. Cioè, il rischio è che voi andiate qui e vi appaiono un sacco di arbusti che cominciano ad attaccarvi. Dopo siete due contro gli arbusti, non è bellissimo. E visto ma possiamo che... farle così insieme così rischiamo di appunto, morire come degli idioti. Appunto. Vabbè, andiamo, camminiamo. Entriamo ma battendo... anche qualcun altro, c'è anche qualcun altro o siamo solo noi quattro? Per comodità se vi considero voi quattro. In teoria ci sono anche Smeralda e Rictavio che supponiamo stiano pattugliando il perimetro per controllare che non ci siano imboscate. Allora facciamo così, dai, noi andiamo avanti e voi rimanete pronti a intervenire dietro al muro. Chi ha la pietra? L'abbiamo data. Beh, l'abbiamo già data a quelli della cioè, credo che Vez l'abbia. Vabbè, io volevo mangiarla o distruggerla, però mi sa che Vez l'ha data. Sono solo loro. Allora, quella pietra l'hai data a Demian. Sì. Reis vi ha detto che controlla che nessuno porti via niente. Grande Reis, so che posso sempre contare sul mio migliore amico. Abbiamo perso di nuovo la pietra. No, perché i discorsi qui sono in 6 più la donna. Però il nostro obiettivo era l'albero. Allora io ipotizzavo, se due di noi stanno qui prendono tempo e due vanno... Oppure uccidiamo la donna e... Sì, oppure niente all'albero. Ah, andiamo lì. Davanti. Chi vuole stare... Allora, io e Giulia andiamo davanti. Andiamo. Chi vuole venire bad da boys, davanti? Bad boys, bad boys. Che conto è davanti, se no dietro gli stessi. Allora, cioè, ci nascondiamo io e te e... prendiamo tempo, secondo me facciamo la figura dei... Io non mi nascondo. Va bene, appariamo lì davanti e diciamo... Fatto finire che cos'è questa follia? Gli altri due. Ok, mentre arrivate, ovviamente... Vabbè, un fulmine in fronte. Vi vedono da lontano. Vabbè, siamo lì. Sì, non è che ti trasporti. Che cos'è questo? Smettila di comandarli a bacchetta. Potrei... Non mi provocare. Cos'è questo? Potreste parlare voi due, fare poliziotto buono, poliziotto cattivo, vi ci vedo adesso. Ovviamente sta Giulio venendo qua, questo è un luogo dissacrato. Va abbandonato il prima possibile. Chi siete voi? Oppure no. Druidi, nonostante il mio compagno mi ha tirato un D4 e quindi la vostra presenza sia colpa sua, difenderò il vostro diritto ad essere qua a romperci le balle. Cosa? Io d'accordo. Mentre vi avvicinate... si mettono di fronte i tre barbari, tre berserk, quelli grossi. Dietro di loro si mettono tre druidi e gli appoggiano una mano, ognuno di loro appoggia una mano. Vabbè, allora rimaniamo strategicamente a 20 piedi da loro. Anche di più, insomma. Anche 40. 20 è lo spazio necessario per il mio ace per caricare. Sì, ma stiamo più indietro, non ci caricano loro. Allora rimarremo a 40 piedi da loro. Mi sembra più appropriato. Mentre vi avvicinate appunto i druidi toccano le spalle dei berserker da dietro e vedete la pelle di questi diventare coriacea. Coglioni, panzoni, stavo dicendo ruvida, però coriacea suona molto meglio. Parlé ce l'ha 16. Dietro ancora si mette la tipa incappucciata Melissandra. Quindi tu arrivi e dici: chi siete? Perché siete... Cosa ho fatto un fiorino? Cosa state facendo su questa terra dissacrata? Questo stavi dicendo. La tipa dietro si abbassa il cappuccio. È una delle mogli di Stradi. Abbassa il cappuccio, mi fa così? Bella. Quale? Caipirinha. Anastasia. Trasia, Ludmilla o l'altra che si chiama veramente Anastasia. Giulio è in grado di leggere la sua calligrafia. Anastrana. E se Giulio è in grado di leggere la sua calligrafia, di su. No, qui c'è scritto Volenta. Cioè, Volenta. Volenta. Volenta. Volenta. Onolenta. E Anastasia. Non gli ho dato io il nome, mi Volenta. Anastrana. Quale delle tre? Volenta. È Volenta. Che era? Non mi ricordo. Non quella con la maschera. Era? Donna Violenta. Era quella non la negra, no, donna contenta, una vistana, una vistrana, la prima tipo vistana, cos'era la prima moglie? No, è l'ultima, è una strana, la vistrana è l'ultima moglie. Vabbè, la cerco su Wikipedia. Ma perché continuavi a piacere? Sì, è quella vestita in modo più provocante. Ah, è so provocante metterci un cappuccio, fantastico. Cos'è accaduto? No, ma forse non è un problema. Non so, andiamo. Volenta Popovski. Esatto. Ah, Volenta, per chi non si è contento. Strada un paio. Beh, in un certo senso strada non si è contento. Hai detto che sta comandando tutti quanti a bacchetta, no? Mm-hmm. Ok. Appoggia la bacchetta! Nolenta! Volenta! Nolenta, Violenta. No, Violenta. Ti dice. Curioso. Proprio. Che ironia. Ieri è stato rovinato questo splendido regalo che avevo preparato per il mio consorte. Ah, l'ha bruciato Giulio. No, l'ha bruciato Giulio. No, è stato Metz. E oggi ritornate. Metz è il nuovo Giulio. No, e oggi comparite qui. Forse per finire il lavoro. Lady Volenta. Cosa sei tu? Una specie di abominio. Giulio. Abominio. Non sono parole carine da dire comunque. Non basta gli occhi questo. Kai. Padron strada? Cioè, volevo dire. Non capisco se siamo ancora in diretta oppure no. Non riuscite a capire. Se ne frega, ragazzi. Ammazziamo Polenta. È stato commesso un furto qui. Un particolare articolo che volevo regalare al mio adorato marito è stato sottratto. Voi ne sapete qualcosa? Ci siamo in diretta. L'unico furto qui è quello del mio cuore. Vabbè, bisogna sempre usare un po' di warfare. No, te lo dico perché io lo so, perché l'ho conosciuta, tu no. Il tuo amato marito, curioso. Anche il mio amato, mi ricordo. Il tuo curioso mio marito è amato da tutti, sant'uomo. Santo, un apostolo. Tuttavia, chi ruba non può lamentarsi. Che caso volte rubato. No, che ironia. Hanno rubato i ladri. Non troverete qui quello che cercate. Andatevene e non vi faremo nulla. Non so, Lady Volenta, se magari è più specifica nel dirci cos'è che avete smarrito. Persuelo. Adesso basta con le chiacchiere. Mi è venuta fame. Ci sta, ti iniziativa. Tira fuori gli artigli. Le tette. No, gli artigli. Che cazzo, è più provocante. Gli artigli delle tette. Cos'è che non ci sta? Va bene, dai. Iniziativa. Ma Lady Volenta, noi non vogliamo combattere. Giù, arrendetevi. E che palle. 20. 16. Oh, iniziativa. Io ho svantaggio. 6. 6. Sei. Che cazzo? No, 16. Dai, però una volta potevo fare. E va, distanza. È fatto come marcio. Sì, la cosa sempre deludere la uscire. Ok, vediamo un po' che succede. Questo è un come sono... Comunque stavo pensando che usiamo il barbaro per andare in avanscoperta in stanza e... piuttosto tu che fai la descrizione sì. Donna giovane con i gioiai che dico, potrebbe essere anche una delle mie di strada, ed è una delle mie di strada. Vabbè, sicuramente che abbia dei gioielli, che sia ricca in questa zona, basta. Il mio personaggio è nato in questa terra. Sì, sono d'accordo, però anzi, in realtà non è strada la terra, sono io la terra. Sono quindi ci sono i tre perché il fatto che Diego sia in realtà il cattivo della campagna su questo, vabbè c'è Strat che si unirà a noi, possiamo combatterlo subito alla fine. Strat si unirà a noi per combattere, esatto. Giulio a quanti piedi erano rimasti? 40 sì. Oh, che ironia, ti muovi di 30 e prepara un'azione. Un'azione. È un'azione basta. Esatto. Spiega, anche io mi muovo di 35. Vabbè, aspetto che qualcuno mi preparo. Se qualcuno mi attacca, lo attacco. Se qualcuno ti attacca, lo attacchi. Ok. Estraggo le due spade, Tom. Va bene, quello è parte della tua normale. Però all'inizio voglio provare a farlo cercando di fare tipo parliamo. Poi quando mi arrivano addosso mi ammazzo. Fai il blef. Oh. Va bene. E no, se volente, se volente vuol venire a parlare, io sparo. Vabbè, visto che la mia sezione torna a gestire, vado in ira. Caricherei, però io faccio 35 piedi, quindi. Però hai. Caricamento non mi aggiunge mentre te l'ho già spiegato. Se riesco a fare andare in linea retta, mi aggiunge o un secondo attacco. Non hai una mano per spingere l'avversario. Io ho il mio attacco extra. Boh, vai davanti, comincia a fare blu. Sì. Sali sull'alce di Vez. Cosa? niente, posso solo arrivare lì e basta. Fatta arriva a loro adesso. Ok, quindi. Prepari anche tu l'azione. Io faccio un movimento e poi posso. Mi rimane un'azione che posso di attaccare. È di 35, arrivo a 5 piedi da loro. A un okay. Cioè, se no, se vuoi, li posso io al posto di preparare l'azione lancio te, poi tu con la tua azione arrivi. Se si può fare. No, quindi non so, la faccio di 35 volta. Piedi e poi posso preparare l'attacco. Se uno mi arriva addosso, posso farlo? Ma vale poi il mio caricamento? No. No. Devi specificare l'innesco che fa partire la tua azione. Subisco un attacco in corpo a corpo. Ok. Anche perché mi serve il corpo a corpo per attaccare, essendo a 5 piedi da loro, qualunque altra cosa facciano io picchio l'aria. L'importante è che definisci un preciso evento che fa scattare la tua azione preparata, qualsiasi esso sia. Ok. I berserk. Siamo metti a 40 piedi perché lui si muove di 40 piedi. In realtà 50. Non lo so, io ho detto 40, ma poteva dire. Io inizialmente avevo detto 20. Poi tu hai detto più lontano. E così non ti caricano. No, però forse il loro movimento era di 40. Non mi ricordo. Perfetto. Ti ricordi che ti inseguivano? Sì, no, loro ci arrivano con due movimenti. Quindi sta morendo la gruppa di Vesta? Vai. Sono tutti esseri umani. Sì, sono tutti esseri umani. I tre berserk si trovano in un bel nano cicciotto davanti a sé, succulento. Ah, e quindi estraggono le loro grandi asce e te le mulinano addosso. Loro, sono avanzato. Proprio come fai tu, possono prendere vantaggio al tiro per colpire. Io avevo preparato l'azione se mi attacca. Hai capito? Nessuno mi attacca. Beh, se parli io attacco. Il primo ti attacca. Ma io so, se attacchi puoi fare la posizione preparata. Aaaaaah! C'è schifo! 0-13. ti colpisce. Aspettavo che loro venissero. Minchia. Vai, puoi fare l'attuazione preparata se vuoi. Perché ho lo scudo, per quello. Vabbè, speriamo, sì. Perché c'è il barbaro, non ho pensato che c'è il barbaro che 23. Va avanti. Colpito. Quindi un di 8 più 6 perché sono in... Ma tu perché hai già agito 8. Io no? Perché ho fatto, perché un ho fatto 16. Te abbia fatto 6. Quindi? È già arriva quello, un tiro di iniziativa. 6 viene prima. 8 danni. Esatto. Ah, avevo vantaggio, vabbè, non l'ho sfruttato. Avevi vantaggio. Ti era un altro di 20. Ok. Hai fatto 20? No, dipende, manca lo 0. Ho allora, fatto 2. Arriva il secondo. Attaccato fra il ventello. Ma non hai due attacchi? Non so, però, esatto, col fatto che l'ho preparato. No, io... Come funziona se la prepari? Perché io ho lasciato praticamente il mio turno a metà, ho fatto solo l'azione di movimento prima. No, hai usato la l'azione per prepararla. Quindi quella se preparata è un'unica fammi, cosa. Aspetta, questa è di sicuro una cosa che hanno sicuramente chiesto in passato. Però secondo me tu prepari un'azione. Ma un'azione è un piatto. Esatto, è un'azione anche quella. Giusto. Non è che guarda, no, Atanas. Attacks, attacks, non è ready di action. Questo sembra di vedere attacks di design, ok. Esatto, extra attack funziona solo nel tuo turno. Questo è il turno del tizio. È il suo turno, ok. Quindi solo lo schiaffo. Dai, attacca anche il secondo. Comunque. Quindi questo è il terzo. E l'altro ha fatto 14 più 5, 19. Quindi ti arrivano addosso due ceffoni. Dai, non dovrei ricordartelo, ma hai dimezzato i danni perché sei nero. Non ne ho ancora subito. Hai ragione. Rimediamo subito. Ok, sono 16 danni. Quindi occhi in giro. Mi trasformo. Ma no. Ah, non si vede, non si dice trasformato. Adesso sono trasformato in un nano, ma torna nella sua forma normale. Di molto molto più forte. Diventerò un uomo che non è scritto in italiano questo manuale a quanto pare. E quindi. Non lo so. Diventerò. No, perché adesso sono evoluto, posso diventare una cosa più grande di rosso. Un polipo gigante. Un bottone. Un bottone, cazzo. Diventare, eccolo qua, un giant constrictor snake. Ma prima di diventare un giant constrictor snake, casto pelle coriacea. E poi divento un giant constrictor snake. Come azione bonus. E poi mi. Quanti punti ferita ha il giant constrictor? 60. E poi. Un po' enorme. Sì. Minchia. E poi attacco Shiro, stai di fianco. Sì. Tanto prima hai dimezzato. Sì. No, comunque fa 30 piedi anche il giant costretto, quindi non ci arrivo. Sì, ma non posso. Aspettate, ma che distanze sono loro? Ha detto. Due hanno chargeato. Hanno chargeato. Vabbè, no, è vero. Sono, hanno fatto 5 piedi. Sono a 35. 35. Giusto. Però io come azione ho castato l'incantesimo. Sì. Come azione bonus. Hai trasformato. Hai poi... Ho un movimento. Per arrivare dietro Sceo. A seconda dell'ordine in cui fai le cose o il movimento del tu, snake tu, o tu il movimento del nano. Tu. No, il movimento del nano è insomma di una minchia. 7,5 metri che sono secondo me tipo 20 piedi. Che non lascio piedi, cazzo. Io penso. Secondo me è 30, perché io faccio 35 perché ho un movimento veloce. No. È 30, sì. Secondo me tu fai. No, 30 piedi. No, 30 sono, tu fai 35 perché il movimento di veloce ti dà più 10. Allora 25, scusa. Sì. Allora ti conviene muoverti. Sì, vabbè. Sì, no, infatti mi muovo da cambia poco comunque per. Se si cosa ma più il mio nano. E non arrivo neanche dal druido. No, sì, ancora più dietro. E la tizia ancora più dietro. Sì. Allora mi avvicino a Shea. Ok. Ta-ta-da. Bad boys. E tu carino, tu nano, non arrivi già ai tu superare la situazione andare oltre. Perché dovrei superarla? Chi c'è? No, chiedo perché tu hai detto che fai di più. Ci sono due barbari. Due druidi? No, tre barbari. No, c'hai i druidi in mezzo. Traveler c'è già da te. Quindi c'ho tre barbari e tre druidi? Sì, e dietro la tipa. I tre barbari però sono già addosso scemo. I tre druidi sono ancora indietro e la tipa ha dietro ancora. Sì. Se vado sul druido prendo l'attacco d'opportunità? Del barbaro. Charge il barbaro. Oh, ma tu hai paura. Allora sì, allora sui barbari. Straccione. Ma con 50 piedi io posso fare una leggera curva che mi permetta di evitarlo, non credi? Non arriveresti poi al druido dietro. Allora attacco il cazzo di barbaro! È inutile che mi facciate scegliere. Specifica allora. Avversario. Dai ragazzi, sciottiamo sti barbari, vado io sui druidi. Allora, carica dell'alce. Tecnicamente non so se lui ha vantaggio. No, aspetta. Sì, ha vantaggio. Hai vantaggio. Facciamo che facciamo. Che vantaggio? Subito? Perché il barbaro usa l'attacco in campo, ah, sì, cioè che ha vantaggio. È vero che tutti i vantaggi. È vero. Allora, facciamo subito un'azione bonus. Mi puoi testare in velocità? No, così. Cosa? Certo. Però non può usare l'alce comunque, adesso vediamo. Intanto l'alce va al suo. Devo multiclassare un attimo. Quindi ha vantaggio l'alce? Sì. 1-1, che ironia. E 18. Allora sono 3 di 6. L'alce è fatta così. Come fa un alce? Ce l'ha già l'alce. Dipende, se probabilmente la sigla di Happy Tree Friends. Sul barbaro 1, il barbaro 2, il barbaro 3. C'è un barbaro ferito? Sì. Però quello ferito tecnicamente non avrebbe avuto vantaggio, perché l'ha già colpito. Tutti gli attacchi hanno vantaggio. Sceo, è possibile che tu non sai giocare il tuo personaggio? Tutti gli attacchi che fai hanno vantaggio. Tutti gli attacchi che ricevi. Su quello ferito. Finché sei in ira. È diverso dalla tua. È vero, non lo ricordo, che ah, okay. Con le retire due. C'avevo anch'io quella. Allora, se è diverso, al lato pratico funziona uguale. Però io sono il primo attacco. Loro dice tutti, però non attacco. Ah, ok. 17 danni. No, si dice tutti, ok. E la mia è solo il primo, sia fatto che ricevuto. E io poi posso fare... Bene, solo uno ricevuto, non è male. Posso fare poi i miei attacchi anch'io con vantaggio? Sì. Molto bene. E io non mi ricordo. Che cazzo stai facendo, capo? Non vedo danni dimezzati. Allora non li userò mai io in questo momento. Non sono mica in ira. L'altra stessa un di 6 in più. Ah, okay. Sì, un di 6 in più l'altra smart. Hai danni, giusto? Sì. Allora uso l'altra smart su questo ciccio. Mm-hmm. E provo a colpirlo con vantaggio. 13 mancato. Chiedo. Secondo attacco però vai. 13 15 mancato. Meravez, che schifo che fai, madonna. Sembri il Sir Barristan Selmy. I tuoi colpi rimbalzano sulla loro pelle indurita. Che ha 16 come aveva previsto il druido. Che ha lo stesso incantesimo, eh? Addosso, eh. Lui di Leomi. A proposito, tocca a lui. Dramma sportivo. Ma non è che l'hai fatto su di loro. Sei sbagliato. Io comunque sono tipo 5 anche sessioni sprecato. Che voglio prendere un arco, 5 sessioni che non lo prendo mai. Ho anche sprecato un incantesimo. Ok. Perché con la balestra non posso fare molti atti. Sindicato, non mi ricordo, nella tua campagna non c'è buzz, vero, nel circondare un avversario, ammazzarlo. Cioè il fatto che l'hai circondato. No. Esatto. Quindi più persone lo attaccano e lo impedisce nei movimenti, ma non hai vantaggi, cose strane. Uno dei, vantaggio ce l'abbiamo già, uno dei tre duidi inizia con un bel entangle, quindi lancia le sue ragnatele di ragno e mi fate tutti tranne tu. Io sono a 40 piedi, no. Anche sono a 40 piedi, tu no, eh? Tu sei a, io sono a 30 piedi, a 5 dai berserker. Esatto. Tiro salvezza? Devo tirare CD? Tipo 12 o 13. Più 3. Su che cosa? Che è vicino a me più 3. Vero, forza. Bravo Vez! Anch'io devo tirare. Forza. Chi è vicino a te più 3? CD che carta? Destrezza o forza? Decidi. Forza. O carisma? Forza. Forza. Forza, forza. Forza è un 20 per me. Per me è un 22 più 3 è un 25. Allora 15. 18 di dado, più 4 il serpente constrictor. 15. Devi tirare anche l'alce? Considerato che avevo un più 10. Sì, soprattutto l'alce. L'alce fa 11 più 3, 14. 11 passato. Più 3, 14 più 3, 17. La vezza, beh, prima ha dato cosa più 3. Sì, perché io ho fatto 5 di dado, non mi avevo mai salvato. No, sei un più 10. È un più 7 che mi portava a 12, col suo più 3 va da 15. Non so se conterò la CD. Ho 12 o 13. Ero al limite. Ok, gli altri tirando fanno più fatto, dai. E sputano fiamme. Una descrizione. Andiamo, una descrizione. Sputano fiamme sul serpente. Quando ti vedono trasformare, sono dietro da noi. Sono dietro di lui. Che sparano stesso. A palombello. Va bene, dai, forza. Quanto devo fare per colpire? 16. Mi permetto neanche. Vai. Fai merda! Oh! Ed è canoscea, tiro pure. E questo era il bellissimo turno dei druidi. Che finisce con lo sciacquone nel cesso più bene. No, sta la cara. Manca solo lei. Manca che diventa un vampiro. E ora sono. Ok. Ma tu non puoi reclamare il fatto che sei dalla parte di strada. Non me l'ha lasciato fare. Adesso giù a Baia. Deve andare riconosciuto. No. Sono un po' offeso che non mi abbia riconosciuto. Vabbè che ok, può essere difeso. Dell'abominio, tra l'altro. Attacca il Bombardistron. Oh, finalmente. Prima attacco. Tu verso l'armatura completa? No. Sei mutante. Prima attacco con le sue. Oh! Artiglie. Olè, il ventello, attenzione. Giù. Così verso impari a missare tutti gli attacchi con vantaggio. Perdo anche l'antesco. Ah, questo caffè di 4 meno 5. Cioè. Ah, è 11 danni. Devo tirare su con un critico? Giusto? Sì, cosa l'ha attaccato? A schiaffi? Sì. Con l'assorbente? Però mi ha detto che è un di 3. Che no. 11. Mi ha detto che comunque ho il più 3, giusto? Sul sì. Giro. Devi fare. No, in realtà è 10 la tua CD, perché 10 è la metà dei danni. 10 è la metà dei danni, ma lui ha la Laura, che dà il bonus. Vabbè, comunque ho 12 di base, quindi. Passato. Quindi hai fatto bene i 10 e passato. Poi dovrei secondo il mio carisma. Ti no, costituzione, ragazzi. Ti colpisce sì. Un 20? Sì. Incatta, sì. Ovvio. Ma non ti infligge danni perché invece trasformato, vest trasformato, vest trasformato, vest trasformato. Ti prende il lotto. Ma chi è il barbaro? Sta qua la donnina no, mezzo. È la tizia. Ah, la tizia. La tizia ti abbraccia la moglie di in maniera molto sensuale. E tocca ad Atanas. Ti prende il lotto, non posso tirare sulla lotta. Invece di infliggerti danni, lei ti può prendere il lotto. Dopo, nel tuo turno, puoi prendere. Sei solo afferrato. Mi avvicino di 20. Abbraccia anche se io sono sperlancio. Cosa sì, ti abbraccia? Il ginocchio. Ti è saltato addosso. È tipo dietro di te in sella all'alcio. Come scusa? Ah, ti ho preso! Avanzo di 20 piedi. Di 20 piedi e sparo. Diventi un piede. Diventi un piede. E tanto ormai. È un problema perché l'antesmark e sparo a un druido. Vai. Cosa spari? La balestra. Con il suo fucile di petizione. Ora che sei un cane enorme con le branchie, spari con le frecce. E visto che non posso arrivarci in questo turno in corpo a corpo, in questo turno mi avvicino un po'. Sì, sì. Ah, sono mosso. Ma non 13. Anche loro sono in mutande come pezzi di lui. Sì. Ah, vabbè, con pigiama fa. Allora, tu, di tuo quanto ha? Ah, 16. Ecco, lo sapevo, avete un USB. Un po' più di 4. Pure no. Un cavo USB. No. Per cosa? Perché? Per caricare questo. Che cazzo ti serve? Ah, c'è le iscrizioni, che peccato. Non vorrei mai che si spinga. Non ce l'ho. No, non ce l'ho. Di solito ce l'ho. Che attacco ha però? USB è quello classico da cellulare. Penso. Sì. Peccato non ci siamo presi però qua capo. Ma lui ha la batteria esterna. Power no, ce l'hai lì di fianco la batteria. È abbastanza lunga. Penso di sì. No, secondo me non ci arriva. Guarda, però ci devi mettere no, il coso. Guarda cazzo, ma non ci arriva. Si vede la tizia. Mezzo, ti masturbi dopo. Ma si vede. Ma come si impone? Ma si vede, scusa. Ma io tizia. Forse di un altro manuale. Questo è già un po' più carino. Miglioriamo. Vabbè, beh, ti soddisfa. Miglioriamo un bel po'. Beh, quella non è mica male questo pezzo. Sì, ho capito, l'altra foto. Fagli vedere complimenti. Fagli vedere l'altro disegno. Vabbè, sei fatta la foto da Instagram. Vabbè, che qui è il disegno del coso. A parte pezzo che se la fa strada vuol dire che è comunque un po' male. Sì, fai vedere. Capito qua, sembra un po' strido. Vai, no, Garrosh. Dai, è carina. Vale. Sì, però continua a sollevare le mani. Non ho possibilità di sfruttare le mie abilità per caricare perché sono circondato sostanzialmente. Cioè sono comunque attaccato un bel po'. Primo attacco. Cosa leggi sul dado? Dove? 5. Ho fatto 20 di dado! Sì, è puro. Quindi raddoppio? Rumble. Non mi ricordo mai, raddoppio anche tutti i dadi. Solo i dadi. Sì. 14 e poi faccio l'attacco sì, l'attacco faccio due attacchi più l'attacco caricamento non viene, no scusa, attacco extra 19, che peccato, e 8 danni, quindi 22 quei due attacchi. Ho attaccato sempre lo stesso ovviamente cercando sì, di finire 22 sì. Tanto anche loro dimezzeranno, quindi stiamo facendo tutto. Non dimezzo. No, loro no. No. Non sono dei barbari, sono dei posso ritirare il secondo, avevo vantaggi che non ho sfruttato. Sì. Niente, magari era un doppio critico, sarebbe stato. Sì. Dopo di te tocca a loro, che vengono di vendicarsi per il ceffone che gli hai tirato. Il primo. Vabbè, crittazzo. Guarda come si gioca un barbaro. Perché più ti cazzo anche tu? Si gioca il barbaro, appena fatto un critico anch'io. Lui tira 2 di 12. Ah, quindi sono 17 danni. Che mi ha indicato per 2, 34. Secondo. Critico. I danni del dire crescono. Faccio 9. Che adesso arriva il terzo. 18 ti colpisce? Sì. Cazzo, sì. 13 danni. Ha tirato con svantaggio la merlina. 13 pietra. Hai tirato con svantaggio? Mi hai fatto un critico con 18? 13. Perché sto tirando con svantaggio? No, chiedo, stanno tirando con svantaggio. Per quale motivo? 100 voci che vive. Che è con vantaggio. Sì, scusa, stanno tirando così dopo. Scusa, ma con vantaggio. E l'altro 13. I lamenti di show ti fanno vicini. Vicini. Sì, sì. A quanto sono? 52. Io mi sento dentro al combattimento. Mento. Dopo il berserk. C'è qualcuno qui che dovrà morire. Oh, Shapshu. Io attacco con quello con cui ho vantaggio. Vantaggio di ghiaccio, e me ne compiaggio. E dici quello che vedi messo peggio. Quello che l'unico che abbiamo attaccato, il bambaro. Sì. Allora, me le vuoi pugnare? Faccio 16 più 0 a 16. Però è per le coriace. Ma ecco, coriace anche la spattimento di coda che arriva in the face. Slap. Però concentrazione del druido. Perché cosa? Che cazzo dice la forma selvatica? No, però io prima ho fatto danni al druido. Quindi è di 10. Io devo tirare la concentrazione se mi becco danni, non so. No, c'è lui. No, che ironia, boom! Ed è proprio quello di Ash. Catta, hai visto qualcosa tu? No. Neanch'io. No, fa 8 danni. 8 danni al barbaro, però... Aspetta. Prende me... Hai visto qualcosa? Ah no, aspetta. Ah no, non gli faccio questa, no, scusate, gli faccio questa io. No, a parte le caccate. Pensavo fossero due cose diverse, invece lo sono, pensavo di poterne fare entrambe, invece è una sola. Invece che questo qui, che è un morso e basta, faccio questo. Pensavo che questo allo stesso tiro per colpire. Dopo questo. Esatto. Pensavo invece faccio 2 di 8 più 4 invece che 2 di 6 più 4. Vabbè, cambia il cazzo. 7, 11 danni invece di 8. E la, il target è un grappolo. Praticamente lui diventa un grappolo d'uva e torna nella vigna. No, dice, finché è grappato la creatura è restrained e il serpente non può stritolarne un'altra. Okay, però è lotta. Esatto. CD 16, può scappare con un CD di 16 cm. È molto ferito. Bardistram. Di già. E allora direi per forza di cose il... Scendo dal lance. No, io sono in lotta. E faccio il coso per un... Non posso farlo insieme questa va cosa. Va uova i limiti. Se hai una sola. Ma perché uno dovrebbe fare questo che fa meno rispetto a questo? Perché con questa non ho vantaggio. Sì, è un deficiente, no. C'è però se fai sei una situazione cosa. In cui non va puoi prenderlo, avvolgerlo, però lo vai a colpire. Giuri inimicizia. Sì, con la voglia di strada non potrei fare. Tecnicamente adesso tu puoi muovere caso. Ho vantaggio a questo punto. Non passa la prova di lotta, no? Di quello di fianco. Ah, sì, ma lui comunque è grappolato. Sicuramente ad attaccare. Non può scappare. Ah, può comunque colpire. Sì, fammi leggere la. Non è con quel attacco. È la lotta. No, una prova di. Non so che sia. Atletica o acrobatics. Vez, cos'è restrained? Restrained è una condizione. Sì. Grazie. Hai velocità zero. Guarda, ci sento su Tinder. Mi stavo guardando il cazzo. Non so una che abbia una foto del genere. Magari ne ha altre dopo, guarda. Gli attacchi contro la creatura hanno vantaggio. Ok, quindi non attacchi hanno svantaggio. Ah sì? Quella restrained? Sì. Merda, è barato. E hanno svantaggio ai tiri salvezza sulla destrezza. Allora mordi gli altri, intanto tieni fermo quello. Sì. A parte che no. Per mordere anche quello. Io ho vantaggio. Hai comunque vantaggio su questi perché faccio la prova di atletica. Non si accumulano i vantaggi. Mm-hmm. Più che altro lui ha lo svantaggio di attaccare. Quindi attacca con solo down. Può attaccare solo me. 19. Lasciati via i Kleber. Baldrock. Va bene, questo era Vardistram. Aspetta, che vuol dire? Non ho mica finito. C'è l'altro. Mi sa che lei è a terra. E poi scusami, io questo è un'azione. Non posso fare però è vero, i miei due attacchi, cioè uno dei due attacchi lo posso fare. Però l'altro può tirarle un schianappino. È un calcio, sarebbe andata per terra e da un calcione. Purtroppo non prende il mio Channel Divinity lei. No, l'alce no. Non credo sia un paladino l'alce. Però. E qui non morta. Fa comunque 21. No, ma che palle, questa è la roba che dobbiamo usare l'acqua santa. Gli tira una cornata. Sì, quello che, no, anzi, no, quello che non abbiamo capito una... in chiesa stai dicendo. È vero, no, gli tira una cosa. Quello che non hai capito, quello non abbiamo capito in chiesa. Zoccolata. Non abbiamo capito sì, tanto. Zoccolata no, la zoccola. Sì, non cioè in realtà non avremmo avuto abbastanza argento per fare tutta quella passante. No. Ti dico subito che sono 9 danni. Okay. E sta lì. Muta. Muta! Questa non è un'arma d'argento. Fa meno danni di quello che ti d'argento. Saresti aspettato. Ah, è vero che è un vampiro. Cazzo, devo fare la mia mossa, sì. Vabbè, prossimo. Una flirtare per... sì, no, tutte un, tre. Devo farmi il più guardi, sull'arma. Guardi. I druidi. Sì, sì, ha comunque rigenerazione. Se non facciamo danni con l'acqua santa. Ma non allora, abbiamo tutti abbiamo le mie boccettine. No, abbiamo quelle del Monster Pack, poi abbiamo altre due boccettine a testa. E quindi come funziona? Che il turno in cui prendono danni con l'acqua santa non rigenerano. Altro entangle. Ancora. Sono in tre, in una testa. Dove lo faranno? Abbiamo sempre il tuo più 15 tre. Più forza passo. 27. Fa a vantaggio. È sulla forza. 23, 23. No, forse deve farlo anche volente. E lancio 19 di dado. No, perché tanto ha. Libera di movimento. I movimenti del ragno. Okay. Si vado da cazzo del ragno. E poi gli altri due continuano a sparare. Questa volta sparano su quello che ha osato liberarsi dalla. Dal tema. Loro creano queste ragnatele, ma i barbari non. Ne creano. Sono qua, loro ne creano qui. Però. Cioè lui tecnicamente è dietro di me. E tra me e lui ci sono i barbari. 27 domande. Eh sì, se lui è andato sulla tizia è dietro, no? No, la tizia è andata su di lui. Ah, siamo proprio due fronti, quindi sì. Però. Però si sta masturbando perché lei che non. No, mi immaginavo loro più avanti. Allora no, ok. E dove dispara una Vez? Ti mancano 16, li colpisci. Certo, più 16. Sì. Ma tu Vez è mutante ancora? Non si è messo l'armatura e tutto ciò? Quanti anni c'ha, scusami? 16. 6 grossi danni di fuoco. 20 per tenere l'Hunter's Mark. Boh. 6,43. Anche l'Hunter's Mark. When sì, I'm with you, so it's better than. Allora. Sta volente. Sta volente, che è abbastanza offesa. Perché non si è contenta. Che uccidilo, uccidilo, uccidilo. Si è stata respinta da te. Ok, aspetta. Serve comunque il magic whip o con lei o no? Forse no. Dai, catta che. Che è prova ad artigliare il nano. Beccato. E tu il nano? No, io sono dovevo serpente. Non ti infligge danni, ma ti prende il lotto, quindi prova a morderti. Ma questo? Lei? Sì. Ah! Avevo capito che mi stessi attaccando uno dei berserker e il fatto che mi mordesse era poi inquietante. Io posso mordere la gente. Ho guadagnato un attacco del morso. Ti dà un assaggino, quindi ti fa 4 danni perforanti, che vabbè. Più? Di mezzo anche quelli? Sì. Quelli di mezzo. I perforanti sì, questi altri no. Questi che arrivano. Più 15 di 12 alla costituzione. Dai, solo 4 danni necrotici che diminuiscono il tuo massimo di punti vita. Ah, si aggiungono a quello uno che già avevo. Bene. Ma questi, vabbè, durano finché non fai un lungo scorreggio. Ah, no, non li sto a segnare. Bene. Atanas. Carico un barbaro. Okay. Un berserker. Arriva quello già ferito. Sì. Ah, quello avvolto. Posso attaccartelo? Non ho problemi. Quello più di un anno. Ho vantaggio? Sì. Sì, perché lui. Però pochi ha pochissima vita, cioè posso attaccare. Vabbè. Vabbè, sono tanto poi gli altri attacchi, ma sì. È comunque un 16. No. Aspetta. Quindi sono 9 danni. Crepa. E poi altri attacchi, allora sono un altro più vicino. Mordilo, mordilo, mordilo. No, faccio un cazzo al morso. Ma è bello. Dove è ucciso? Dove è un berserk. Che schifo, ho fatto 4 e 5. Quindi no, questo 12 non becco. Terzo attacco. 19. Colpito. 9 danni. Ok, però lei potremmo anche avvolgere. Atanas, dopo Atanas, Garrosh. Io continuo a picchiare. Catturarlo. La situazione che adesso ne ho. Un barbaro è morto, uno è stordito da lui. Ah, no, cioè ho. Giusto, avvinghiato la tizia. Quindi sì. Devo fare una prova di forza, posso fare? Ma schiaffa già, ammazza. Regenera di. Puoi provare a fuggire dalla sua morsa oppure. No, se puoi attaccarla tranquillamente. Posso attaccarla tranquillamente. Posso attaccarla. Sì, in teoria dovremmo prima segare. Allora l'attacco di brutto. Ok. smartellata in testa questa troia. Fumble. Secondo attacco. Sai vantaggio di uscire. No, di lei no. Di lei no. Secondo 16. Dimmi di sì. Colpite. Dimmi di sì. Se sta Zocco non la prende sì, il lotto avete svantaggio a colpire e voi avete vantaggio a colpirla. Il problema è che secondo me dovremmo prima segargli tutti i cosi. I minion. E a me la tengo in lotta. E poi attacco gli altri. Il tuo attacco è meno efficace di quello che sarebbe su una persona normale. Che però intanto la tengo impegnata. E Berserk. Lei sta su di me ad abbracciare, no? Che potrebbe gli ultimi due che rimangono cercano di vendicare il loro compagno. Ha dato dei danni necrotici. Il cattivone. Vabbè, però intanto sta su di me e voi la potete menare. Primo attacco. Ah! Che schifo! 18. Lei che merdi, che merdi. Ah, 24, non becca. Vai, 4 danni. Beh, tecnicamente io le mani libero. Cioè, posso recuperare la roba nel mio zaino. Scegliamo che distanza è con quella roba, con la roba di attacco. Siamo tutti lì, eh. È lì? Sì. Sì, ma seguiamo... Devo picchiare i barbari? Tu segherai quelli, perché se no... Io prenderai in lotta la tizia. Così scelgo lo libero e lui picchia i barbari e io comunque posso attaccare poi i barbari anche se non in lotta. Perché sono altre classi. Prendo la... Però la risoluzione della tizia non ha vantaggio. No. Però se sei in lotta con me non so se puoi prendere in lotta. Se prendi anche me, cioè abbracci tutto. Sì. Non so come funziona, sei un serpente, non è che puoi... Cioè, non so come funzioni fisicamente. Si infila tra me e lei e prende lei. Catta, può anche liberarti. Sì, magari... Sì, magari ti libera, anzi. Però in realtà si aggiunge alla lotta semplicemente. Vabbè, cioè, vado su un barbaro che ha vantaggio. Due avvinghiati e poi arrivi a prenderne uno dei due. Oh, brutto questo critichello, sul barbarello. Per me sì, ha ragione lui. Finché resisto, la tengo impegnata. Io non so, adesso vedo perché in realtà. Il barbaro fu lì. Minchia. 15, 22, 25, 29 danni. Wow! E lo prendo in lotta. Cioè, da guindiato. Merda. Poverino. Si è detto male per lui. Guardi, strano. Ascolta, se io... La stanza è druide. Un barbaro è in lotta con me, e l'altro è libero. Sì, ho fatto anche il vow of limiti. Cioè, io devo pure attaccare lei. Ah, ho preso quello che aveva subito 9 danni, però. Cazzo, gli la boccetta d'acqua e quella colpisce. Stavo pensando, se io cospargo il mio spadone di acqua santa, dura più di un turno o no? Non funziona. L'acqua santa funziona che viene... Tu hai la sfiga che io ho fatto matematica. Cioè, non puoi... diventare. Quindi 58, quindi io devo 29. Una boccetta per turno? Non fa 31. Aspetta. Che se è una boccetta per turno, non lo so. Cioè, se tu... Se qualcuno gli tira una boccetta per quel turno non rilieve. Sì, però se gli tira una boccetta non posso fargli danno. Se aspetti, adesso fai... Fai 2 di 6 dall'acqua santa. Esatto. Se no aspetti, al prossimo turno gli tiro io l'acqua santa mentre ce l'ho addosso e poi la colpiamo tutti in quel turno. Se qualcuno gliela tira... Io. In questo turno, perché io che cazzo faccio? Non attacco, cioè è ovvio. Perché se glielo tiri tu adesso in questo vabbè, turno... Vabbè, un po' di danni comunque glieli faccio. Cioè se glielo tiri tu... La spada argentata da Giulio. Ma non cambia l'argento niente. Non cambia niente. Perché se gliela tiri tu in questo turno, cioè ok, gli fai i danni, però tra virgolette è sprecata perché il turno è finito. Se invece al turno dopo io, che sono prima di quasi tutti, la tiro. Vabbè, però io ho fatto power limiti, ovvio che vabbè, tu adesso. Intanto ne abbiamo più di una a testa, come mi ricordava lui. Quindi... Allora, intanto vai d'attacco, poi vediamo. Se no tiragli anche tu la boccetta. Male li fai. Allora, attacco normale. Facciamo io posso 23, primo. Posso raggiungere le mie cose nello zaino mentre sono in lotta. Problemi di solito. E sono 11 danni. Secondo attacco. Porca miseria, 15. Comunque poi rigenera 10, quindi se ne fai. 15 prendono fisso. Ah, rigenera fisso, non è la metà. Ma rigenera, non di meno. Sì. 13 danni. E poi c'è l'alce. L'alce prende via il paladino. Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ah, qua secondo me gli tirano l'incornata invece. Wow. Ma che stai focussando? Una zoccolata? No, incornata. La tizia. Questo è un scelto. Sì. Volenta. 7 danni. Ok. Però. Vabbè. Gli hai fatti 30, considerare che comunque ne. Sì, qualcosa. Va bene. Addestrano i druidi. Cioè, ma rigenera ogni colpo, rigenera ogni turno, rigenera 10. Beh, allora hai fatto tanta roba. Sparano all'alcio. Chi? Che schifo. Che merde. Quanto cazzo. Però è un po' cazzo. Dipende, quanto hai fatto. Poi in realtà, adesso se la focussiamo tutti e due con tutti gli attacchi, sì, non stiamo certo, neanche a tirare. Non stiamo neanche a tirargli l'acqua santa. Aspetta che mi tira giù l'alcio. 7 danni. Non è ancora morta. Peccato. 6. Cura la vezza. Imbecille. Potrei però. Sì, che tu non fai un cazzo. Tocca a lei che continua a succhiare. Ah, poi si rigenera tutte quando ci succhia. No. No, si rigenera quando succhia. Scusa, sì, più bravo, senso che gli tiro la boccetta e poi gli facciamo gli attacchi più. Ah no, perché è scarsa. Strada si rigenera. Cioè, rigenera 10 o non rigenera 10, io però se uso la boccetta gli faccio solo quello di 6. Altrimenti faccio due attacchi da di 8 più 6. Quindi in realtà faccio di prima sempre. Non lo so, secondo me la teniamo un po' a bada e te, loro ammazza gli altri, poi dopo. Secondo me tanto gli facciamo una media di 40 danni a turno, io sei insieme. Mosso. Se io la prendo in lotto, però voi avete vantaggio a colpirla, che non è male. Stupendo. Io non ho vantaggio, però sì. No, è uguale. Però tu stai impegnato sugli altri. Sì, ma gli altri fanno merda al cazzo. È appunto finita. I denti fanno. Sì, io dicevo, però invece che tenere in lotto un barbaro. Prendo lotta lei così volete vantaggio no pistana. Perché io incasso sì. I colpi è vero che anche tu puoi farlo in tanti, però no ma lei ha svantaggio su di me se sono denti sono 4 danni perforanti cioè lei ha svantaggio a colpire vantaggio per vabbè, voi la tirate giù power prima. Play però cioè alla fine ma power play sono 10 danni necrotici a blocco quanti? 10 sei a 34 adesso e gli abbassa il massimo lei è ancora in forma di 10 lei la vediamo bella sana in lei gli avete fatto qualche ferita però quando è iniziato il suo turno alcune di queste si sono rimarginate e Atanas attacco il barbaro quello non preso in lotta i barbari, due. E tre druidi io mi devo staccare dalla lotta perché sennò non attacco il barbaro non quello preso in lotta da sì, mi sa che facciamo così ah ma io dopo che ne costringo uno finché lui è costringato lo se posso continuare a stringere e fai... ho vantaggio la boccetta io cioè, carico dopo cioè vado sì. Uso 22 sì, io mi esco dalla lotta e gli tiro la boccetta se posso fare critico sì. No mi libero dalla lotta e le tiro la boccia faccio così ma poi tiragli la boccia basta perché non ho la boccia non... ah perché c'è un movimento come un'azione e l'azione che useresti è per togliere una mancanza sì. Perché se mi tieni in lotta rischio che mi butta giù 6, 7, 15 danni voilà. Stai focussando quello che ho in lotta? No, in l'altro ah. Catta, puoi azzeccarci qualcosa questo PF? L'ho detto due volte non lo so, è che sì cioè, è che interagire con un oggetto del più potente in teoria è gratis sì, sì. Però non so se puoi il gesto di tirare non ho focussato il tuo perché il tuo è già incasinato però il mio, con te cioè le sono addosso sì, capisci sì, non però... no è che penso che sembra ammazzare da voce allora la mia idea sarebbe questa però immagino che posso farla liberarmi e tirare l'acqua mentre mi libero però sono due azioni immagino esatto. Tu con, sì, allora, allora le tiro la boccetta e rimango lì ok quindi 2 di 6 come funziona l'attacco con la boccetta l'attacco cioè glielo verso addosso mentre mi hai in lotta non penso di mancarla tutto il rispetto per le regole non so se come non gliela lancio capisci tira per colpire la... dai vediamo cosa fa ma non gliela lancio gliela verso in testa non mi ricordo come funzionano le tira fa il tiro alto siamo a posto se si fa il tiro basso magari non deve neanche tirare non mi ricordo come funziona un 5 però non so cosa si deve aggiungere strezzo no la tirava per colpire scusate raga come se fosse un ascia no, il discorso è che siamo abbracciati gliela voglio solo versare addosso lo so ma funziona così con l'ascia cioè, se come una commerzione tu sì, you beh, can no. Splash the, tu puoi rovesciare il contenuto della mm-hmm. fiaschetta su una creatura entro 5 piedi da te o lanciarla a 20 piedi mm-hmm. rompendola nell'impatto in ognuno dei due casi fai un ranged attack anche contro quando... la creatura bersaglio anche se è in lotta cioè trattando posto, l'acqua santa come arma improvvisata quindi non attacca non aggiunge proficiency Eh sì, perché considera Shiro che magari se non ti rovasse come stu nel tentativo di rovesciare la ti caschi. Quindi ha il suo attacco. E anche svantaggio all'attacco. Perché? Perché hai un essendo un attacco ranged, quando hai un avversario entro 5 piedi è svantaggio. Vabbè, lo aspetto perché era fatto. Bevi dato piuttosto. Non lo so. A sto punto se mi conviene farlo. No, non ti conviene assolutamente. Cioè, come se fossi tipo costretto e non riesco a prendere a tirargliela, capisco, la condizione è quella, allora è diverso. Colpisci da buono. Allora l'attacco è buono, cioè. Sì. Vai. Sì, però no, l'attacco e basta. Sate lì giocare. Tanto alla fine faccio più o meno gli stessi danni. Compresa la. Se colpisco appunto 9. Immagino non colpisca. Bene, pambo, fantastico. Era meglio la boccetta. Si rovescia addosso la boccetta da sola. No, perché la boccetta la perdevamo. Ok, tocca al Berser. Passa il turno, okay, c'è? Tocca a me. Uno costretto. Uno costretto da. Okay. Lo fa una prova per liberarti. E l'altro contro di me. Fa una prova per liberarti o attaccare con svantaggio? Beh, se fa attacco in cauto, attacca normale. Però farà. No, lui ti attacca. Non frega niente. Svantaggiati. Che si compensa con il suo vantaggio. No. Sì. No. 16. 17. 18. 19. 7 danni. Si deve tirare sulla concentrazione. 15 di dado. Passi. L'altra ti attacca, stai serpentone. Ancora? Ora, improvvisamente adesso non accordi che ci sono. Ho preso in mai tuo amico. Figurati, un serpente non in mezzo alla strada, adesso improvvisamente mi vedi. Mi colpisce. 17. Perché? 13 dado. Perché ho pelle coriacea addosso. Ah, c'è la concentrazione per quello. Sì. E 3, 4, aspetta, 4 più 3, 7. 10 di qua. Se i druidi li toglieremo, forse potremmo togliere i pelle coriacea agli altri. Patk. Stritolo la merda che ho addosso. Oh, che dico di nuovo, brutto! 9, 13, 16 più 20. Cioè, 20 tutto. 16 più 20. No, raddoppio anche il più. No. Vai, morto? No, no. Allora, però hai mai sentito uno. Momento di attaccare. Ma alla fine sì, ci conviene. Tanto comunque, vabbè, io questo giro ho fatto merda. Però se gli fai anche solo 30, 20, 25 danni, tanto sono 15. 22. Mancata. Solo che non so se cominciare a usare gli incantesimi. Usa smitela. Sì, potrei. Se tra l'altro fai anche danni radianti. 2 di 8. Ah, che va bene lo stesso? Sì, lo stesso tipo di danno dell'acqua santa. Ah, ma che cazzo, allora di cui stiamo parlando? Non lo so, è un personaggio che dovresti. Anche posso per giocare i personaggi di no, tutti, non ragazzi. So come funzionano i vampiri, abbiate pazienza. Che ne so io delle vostre regole? Allora. Tanto colpisce. Preso, stato 22 colpisci. No, adesso non c'entreresti il mare neanche se cascassi dalla barca. 12 19 21 25 danni, di cui 12 radianti. No, scherzo, di cui vabbè, sono 11 radianti. E poi c'è il secondo attacco. Aspetta un attimo. Però farò un devi separarmi. Cosa vuol dire? Radianti, allora aspetta, 12 erano normali, no aspetta, 12 più 4, 16 erano normali, quindi i restanti 9. 9 erano 9. Sì, 25. 25 no. No, ma non poteva esserci un 9. Ho sbagliato a calcolare allora. All'inizio avevi detto 11. Oh, il super direttore della banca di Longastrino non sa fare cosa. Beh, no, perché aspetta, ho sbagliato qualcosa. Hai fatto 25 danni, all'inizio avevi detto che erano 15. Secondo me era così, anche. Perché se erano 2 l'avrei dovuto ritirare. Quindi secondo me erano 3. Non so, non saprei tu. Tu ero un 4. Hai detto che erano 11, erano 11. Se erano 11 allora ho sbagliato completamente il numero di danni, che ci può stare. Quindi erano 12 più 11, 23, 4, 27. Ok, quindi 11 radianti. 27 di cui 11 radianti. 27 di 15 radianti, quindi sono 11 16 radianti, e 11. 16 normali. Esatto. Okay. E poi sì, vado con tutti i PF che sta rubando carta lì per calcoli. Cioè. Un po' si compensa. 20 a colpire. E questi sono 13 danni. Quanti? Normali. 13 normali. 13 pietre. 13 pietre. Andiamo da smaltarla. Ah! Pensi che sia finito? Ma c'è la. Che fa danni radianti l'alce. Poco se non ha preso. 10. Mancato. Però è lotta, vantaggio. Chi è che è lotta? La tizia. È lotta con me. No, non ha vantaggio. Cioè, è lei che sta afferrando te, non sei tu che stai afferrando quindi, lei. Comunque svantaggio. No, è Sceo che ha 90, Vez. Lei ha solo il cazzo e il culo di Sceo. È grappled, non è restrained. Ah, come invece è il babbaro. Esatto. Ma ora si è restrainato l'altro. Tocca. I druidi che sparano all'alce. Il pare che sia il pericolo numero uno. Esatto. Oh, vabbè, dai che lo seccano. Seccate l'alce. Seccate l'alce. Come? Solo uno colpisce. Noi druidi odiamo gli altri. 4 danni. Sì, ancora in piedi! Ancora due! Ancora due! Curalo, Vez. Ancora lì! Curalo, Vez, invece di far caccare. Ancora lì! Curalo. Ma no, lo curo. Infame. Sta a lei. Paladino senza anima. Lei, sentendosi bruciare la pelle dalla divina possanza del nostro padre. Attacca l'alce. Il mio divino potere. No. Lascia il barbaro inutile che non l'ha neanche sfiorata col suo martello. Esatto, evidentemente non aveva un sapore, invece era abbastanza. E disingaggia passando sopra le teste dei suoi amici. Gli arrivano degli attacchi di opportunità come se piovessero. Disingaggia da uno, ma non dagli altri. Uno dall'altro. Disingaggia da tutti gli attacchi di opportunità. Vabbè, dai, andiamo avanti. Athanas. Ma giù disingaggia la testa. E a quanto va? Ai suoi 30 piedi dietro ai due. Attacco il barbaro. È come se ci quello che ho attaccato prima. Caricato. 20. Spostatevi. 20. Siete fuoco sono lì. No, il barbaro quella. E 17. Quindi sono allora 12, 18, 25, 30. Sti cazzi. Oh dai. Garrosh. E la tizia in linea d'aria quant'è da me? Attacca i druidi. 30 piedi, ma di fronte a lei ci sono i barbari e ancora dietro ci sono i druidi. Vabbè, carico i druidi. Posso caricarli, cioè fare il mio cosino di caricamento. Cioè, mi sai chi sono il barbaro che ho in lotta io? Un attacco solo. No, mi conviene caricare i druidi e cominciare a massacrare loro, tanto quello lo finisce tu. Ecco appunto, non butto via un round. Ok, quindi usi il tuo movimento per allontanarti dai barbari che hai davanti e poi carichi i druidi. Ma di PF ho io giù di certo. Ma non posso evitarli con una attiva. Puoi usare la tua azione per disingaggiare. Quanto posso sono? Fare solo un attacco di opportunità però una volta. A quanto sono? Io? Sì, 34. Ma sono in due loro. Tutte e due avrebbero l'attacco di opportunità. Di cui vai, uno vai, è restrained, però. Va bene, dai, li prendo. Sarò fortunato. Va bene. 13 Pietro. Quindi hanno pure lui il tizio serpentato oppure svantaggio. Infatti non ti colpisce. Lui di Troia. No, ti attacca normalmente. Lui di Troia. Mi manca malamente. E ti colpisce. Mi sta attaccando. Allora fai pure critico, cioè. 10 danni. Però vado a caricare un druido. Però carico un druido. Vai, Sceo. Primo attacco. 1, 2 o 3. Sono già. Cioè uno c'ha una freccia addosso, un quadrato di balestra addosso. Finisco quello che vedo indebolito. Mm-hmm. 23 colpisce tutti i cazzi. Il primo. Ah, il a 9 danni. 9. Non fai ancora secondo attacco. Eccolo, 11. Per colpire? Così. Colpito, E sono in mutande come detto. Vaffanculo, 7 danni. Ucciso. Qualche pelle coriacea. Scusa, ha preso. Ah no, perché io prima avevo fatto 4 danni. No. È ancora in piedi, è molto ferito, ma è ancora in piedi. Però questo qua ha perso la pelle coriacea. L'attacco extra. Caricamento. Però devo fare così. 16 a colpire. Ah, era quello che l'aveva perso, chiaramente, perché stavo 16 a colpire. Colpisce. Il marrone per le coriacee non cambia tanto. 13 danni direi che è. Morto. E non ho usato attacco in campo. Dipende, io l'ho mancato. No, non l'hai usato. Con fantasma. In verso. Due volte. Tu la stai andando. Vabbè, ho capito. No, vabbè, semplicemente stiamo specificando. Vabbè, oh, ce n'è sempre uno spiccato. Quello addosso serpente. Ha svantaggio. E quindi attacca normalmente. Ma di barbaro, qual è il 17 ti colpisce? Sì. Quello che avevamo attaccato anche Scivo e io? Sì. Quindi sì, quell'Hunter's Mark io lo posso spostare? Sì. Su di me. Sull'altro barbo. Quello libero ti attacca, c'è il pentello. Sì, improvvisamente erano tutti su di me. Dai, catta. Oh, lurida merda. Mi prendi bene. Non so, fatti tu, mi prendi bene. Quanti? 15. Chi è che... Quanto sei? Quanto è? 20 da serpente. Quante cazzo di punti di prima? 60. Fischio di stradita là. Altro giro. È il terzo round. Così come fa critica. Sì, però non è possibile. E il druido delle nostre compagnie sia sempre il tank che fa danni. È il terzo critico di fila che fa. Vabbè, riga con vantaggio. Uccidi. È già morto, mi fai tirare anche. Uccidi. 4 di 8 più 4 15, 16 22, 26 danni. Lo squizzo in faccia all'altro. Non sai se sono infetto. Hai visto poi Clara di Strand. È morto? Sì. Chi Bar di Strand? Sì. Allora, i barbari hanno già fatto il loro attacco d'opportunità. Sì, esatto. Quindi non possono fare attacco d'opportunità su di loro. Ah, che carico la tipa. Carica i druidi. Esatto, i druidi ti tutta fanno attacco d'opportunità. No, ferma. Cosa? Oh, dai. Sono i druidi davanti alla tizia. Aspetta un attimo, cosa tiri? Io ho 50 metri, posso passarci a di lato. Ho capito, cioè sono 50 piedi e abbi pazienza, lei ne ha fatti 30, cos'è? Quanta vita, ragazzi? Oh, passo a no, gli ammazzo i druidi, gli passo sopra adesso. Scusa, dammi un attimo una mappa, Sciò. Venga, ma stuprati i druidi, vado io su la tipa, la voglio avvincere. Beh, in realtà se loro sono messi qua non ne riesce a... lui sì, faccio il conto allora non mi serve perché è semplicemente una questione geometrica. 30 piedi, è una questione geometrica. Se loro stanno qui, dipende se loro sono qui dall'entrata del circolo o sono in un altro punto. Devi fare saccente, lascia che catta ammazza. Ah, siamo dentro il cerchio. Ah, okay. Fossero stati più intelligenti se tu sei qui. No, lei è qui. Loro sono in tre e sono qua. Questi sono alterni interni. Sono due, perdonami. Sono tre. Uno me l'ha segato. Sono due. Tu hai 50, che quindi diventano in quadretti. Tra l'altro io non potrei passare dal quadretto di Sceo. È influente. Quadretto di fianco a quello di Sceo. I nostri fini non cambiano, la distanza è sempre la stessa. Allora, 5 piedi, quindi sono 10 quadretti. Beh, se sono 30 piedi da lui alla tipa, non bastano 20 piedi per 2. Lui. 4. Ci arrivi. Posso? Sì. Vai, allora. Prima arriva l'arcia a caricarlo. Brutta storia però, solo 9. Sicuro che la ci possa caricare a zacco di mio? Deve fare solo 20, almeno 20 piedi. Sì. Non in linea retta? No, te lo chiedo perché non c'è lontana linea retta. Non c'è più la... Vabbè, in realtà la manca, quindi poco male. Sta bene però. Io ho comunque vantaggio. Ah, l'Antesmark lo spunto su di lei. Sì. No, Vez, vedi, vedi, l'alce deve caricare linee rette. At least 20 feet straight toward target. Vabbè, comunque la manca tanto. Sì, sì. Allora, 20, direi che ho critico. Ah, di dado? Sì. Sti cazzi. Vai, Vez, tu prova. E direi di fare anche lo smite, non posso però, posso, sì. Posso diventare critico anche lo smite. Sì. Sì, sì, grazie, vado. Sono gli 8, sono questi, eh? Ah, quindi se mi serve anche un mystery per... Ok. Allora, c'è qualche dado da ritirare. Tu però vuoi sapere quali sono i radianti, giusto? Sì. Quindi devi separarli. I radianti sono 23 di radiante. Prego. 23 di radiante più 12, 18, 22, 25 e il più non raddoppia, giusto? No. Quindi 29. Quindi 29 normali e ti ho detto 22. E 22? No, aspetta. 22 23. No, 23, secondo me. 9, 12, no. Con quanto l'ho beccata la tipa? No. 14 più 9, 23. Quindi 23, 23 radianti e 29 normali. 29 normali. Hai ridotto molto male. E poi c'è un altro attacco. Bravo, Vez. E questi sono 22 per colpire. Sei ridotta molto male? Sì. Vai, Vez, mai dalle la vita. Posso smaitare di nuovo sì. Io due volte. Finché hai slot incantesi. Allora usiamo l'ultimo. Chi è che ha detto di catturarlo? Oh. Ah, giusto. Ops. Questo riteniamo dai. Beh, ci sta qualche danno in più. Allora sono 12 di radiante più altri 10. Morto. Filzi a metà del suo costato la tua spada. Ah, Giulio, sei stesso. Catturiamola! No, il male non si cattura, giusto, è vero. Nessun compromesso. Lancia un orlo agghiacciante mentre la sua pelle. Sarà contento Stradlet adesso. Nessun compromesso. Tanto sapere che Giulio l'ha massacrata così. Io non l'ho toccata. Se noi testimoni. I druidi osservano inorriditi la scena e si mettono a correre verso le paratie. E io urlo: complimenti, Atanas! L'hai ammazzata! Bravissimo! Opportunità, opportunità, opportunità. Se loro non lo fanno a te, tu non come fai a farlo? No, io no, gli, i miei amici sì. Chi c'è? Ah, c'è lui, è vero. Disingaggiano da Garro. Fuggono, disingaggiano. Ma prima disingaggiano. Posso sempre inseguirli. Non posso. Uno prova a saltare la barriera. E gli arriva in fulmine in testa, 100%. Devi tirare il percentuale. Se passano i sassi. Stanno scappando. Non esitare, se il fulmine arriva, arriva. Cazzo, l'ho preso? Sì, uno è stato fulminato! Sì! Il cielo si fa scuro. Fai con lighting tra i 10. No, questo è un bel fulmine. È stato quello. Preso dal fulmine! Quindi mi è andata bene. 10 di 10. No? Come 10 di 10? Non so. Fai il master adesso? Quasi. Un 8 di 10. Non ho abbastanza. Vabbè, viene. No, 3 secondo me. Grazie. Per fare queste cose quanti ne vuoi, cazzo? Vieni, guarda. Ale. Quanti ne vuoi ancora? Pietro. Ce n'era alcun altro se vuoi. 31 fa anche un po' schifo. Sì, esatto, ma viene incenerito lo stesso mentre cerca di attraversare. Vale come che il via. Ah già ci sono, c'è ancora il barbaro. Darlistran, druidi, lei, Apnas. 25. Boom, critico. Oh, dai. Quanto di tasto barbaro? Molto poco. 23. Il barbaro, l'altro è morto. Sì, uno solo. Quindi faccio questo gravemente ferito. 10. Passa la bagno. 15. 27. Muore. Va bene. Quindi abbiamo segato. Ah, gli strappo di nuovo la faccia. È rimasto un druid. Sta saltando attraverso il coso. Vuoi seguirlo? Assolutamente sì. Tira un dado percentuale. Ma non posso passare dall'uscita. Da che parte sta. Dove sta andando? Percentuale. Dai, rischio, fanculo. Al massimo morirò. Scegli tu la percentuale stavolta. Vabbè. Però dimmelo. No. Vabbè, così è malato. Dimmelo. Vabbè. Okay. Vai. 9. Preso. Preso davvero? No. No, no. Chi è che aveva detto di prendere preso dello scemo? Cosa avevi detto come percentuale? 10 se non vedi. 90. Raggiamo la prigioniera. Non so, ci arrivo, dipende quanto beh, è stata fatta. Beh, tu non hai anche il movimento bonus. Io mi muovo di 35. Sei più veloce di lui. Quindi posso attaccarlo? Ma è morta morta o è come i vampiri che mi va alla sua morte? 18. Sei tipo show. Che sono 8 danni. Ok. Secondo attacco. Boom! Critico. 11. E poi attacco extra con i danni aggiunti. Minchia, 19. Oh, è come in Vanessing, abbiamo ucciso la. Che sono 15. Ci siamo con il Dracula. Oh, sì, ce l'ho fatta, non è scappata la merda. Bene. Mi dispiace, povera Valenta. Era così simpatica. Non meritava questa fine. Cioè, in realtà mi ha un po' offeso. Adesso per ricambiare lì di Avirino. Dai, abbiamo ucciso una moglie e ne diamo un'altra. Dobbiamo trovare un'altra. Non voleva. Abate ci ha provato, ma non ha funzionato. Beh, sei d'accordo. Se abbiamo ucciso una moglie di Avirina in cambio, dai, così ci perdono. Grazie, grazie. E ora è una cosa con cui descrivo, di qualcosa a chiudere. Beh, ci sarà un po' di tesoro. Ah. Gioielli. Giusto? No, questi sono maledetti. E sto albero? E sto albero. Ah, non è scappato! Che idiota! No, però aspetta, qui che cosa stanno facendo? Stanno ricostruendo la statua. Che stavano ricostruendo la statua? Allora, io ti dico già che sicuramente uso una parte della mia cura sull'alce. Per curare l'alce. Ma qui direi che scappiamo alla vigna a dormire come se non. Beh, sull'alce se muore lo rievochi easy, no? Mi serve un incantesimo di secondo, però sì. Non ha senso curarlo, quindi. Potresti ucciderlo e rievocarlo full. Ma adesso in teoria noi andremo contro il tronco. In teoria, non so. Non lo so. Dovete fare. Cioè, io sto volendo. No, sei l'unico. Grazie. No, mi manco ancora serpente. Se voi siete messi molto bene, andiamo. Arci ha 20 punti ferita da serpente, ma altre due, una forma selvatica, due. Io sono a 30. E ha suoi 65 punti ferita. Tu sei a 29. Se no, se qualcuno mi fa una cura. 43. E io per curare ci devo tornare in un anno. 43 hai detto. Quindi con 17 sarei a posto, giusto? Sì. Se no curi me. Così vado io in prima linea. Tu quanto sei? 30 e qualcosa. Su 70. Metà. Punta distante allora l'albero da usare. puoi dividerli come ti pare. Sì, in realtà sì. Faccio 9 su di me, 10 su. Io ragazzi, solo dovrei cominciare ad andare. Vai, 10 su Sceo e 9 su di me. Ci sta. E dove siete voi? 9 su di te? 10 su Sceo. Perché se io e te non possiamo andare in corpo a corpo, siamo a 300 piedi. Capito? Capito, Vez? Se io che te, se non andiamo in corpo a corpo. Quindi ci lascia con la suspense, passeremo l'estate con la suspense di questo albero. La scena finale si conclude con una nuvola che diventa la faccia di Strano. L'albero che diventa Strano. Ma li succede? No, cos'è? C'è una cosa di più originale. Sì, sì. E... un umbe di pipistrelli che prende la forma della faccia di Strano. No, più romantico. Oh, quanto il master? Più romantici, così amante di strada. Le budella della moglie. Una luce devastante. Il sangue del sparso che si raggruppa. Una luce devastante che esce dai nostri petti e facciamo il 7. La moglie muore con un orgasmo, un pipistrello esce da lei. Vabbè, io nel frattempo comunque faccio quello che ho fatto l'altra volta. Il mio, io che sono un serpente gigante entro nel cuore. Fate parlare Katta! Mettete il naso al di fuori del cerchio, passando per il sentiero, così magari non beccate dei fulmini. Ma io non li ho beccati, né all'andata né al ritorno. Per puro culo. Assolutamente sì. Vi ricordate qui c'è il confine. Ah sì, il confine nebbioso. Sì. Perché per l'altra volta non c'eravate. Non è vero. Neanche qui effettivamente. Vedete che in lontananza le nebbie assumono come la forma di una castello, il profilo di una città, diciamo uno skyline, dove si vede un castello, un quartiere popolato, e mi sembra quasi che arrivino le voci della gente, così che di castellinari, e come se un pochino, insomma, fosse uno sfottò, una presa in giro a chi è costretto qui dentro a rimanere intrappolato e non può tornare alla sua casa, alla sua vita. Mm. E girato di spalle, qua sul limitare del confine, c'è una figura a cavallo di un cavallo infuocato. Che sta? La figura si gira, il vostro amico Conte. Oh, che figata, però. È Strad? Sì. Non era il suo portavoce questo? Ci assomiglia effettivamente. Uguale. Però immaginatevi comunque la scena. E quindi c'è lui sulla collina? Lui in realtà è il pendice della collina, al confine del muro di nebbia, che stava scrutando malinconico l'orizzonte. Ah, dai fuoco sul cavallo ora se sei capace. Sfidami. Non è che il fuoco non possa bruciare. Dopo qualche istante si gira e il cavallo comincia a galoppare nell'aria, alzandosi in volo. All'aria. E arriva fin sopra all'albero e guardandovi dall'alto verso il basso alza una mano al cielo, nella quale splende una gemma rosso fuoco. Ah, cazzo. E un gigantesco fulmine si abbatte sull'albero. L'albero comincia a sanguinare, come resina esce il sangue dalla corteccia dei suoi rami, e la terra trema. E le radici cominciano a uscire dalla terra. Si incendiò. Quello dopo. Vedi che scappano. Come se avesse due gigantesche gambe, l'albero si alza dalla terra e comincia a camminare verso di voi. Fine della 23ª puntata. Sopra la città. Ma faremo il fiore. Contro l'albero c'è vita. L'albero azzurro, una merda. Hunter Mark. La follia. Sì. Io non ho ancora incantesimi di quarto, porco cazzo. A meno che Catto non ci faccia fare il livello 7. No, è vero, l'ultima passato. Volta ha fatto anche dei altri 6 dardi Hunter Mark. Ok. Ci impirisci sul capo. Vi aspetto, regà, o vado? No. Arrivederci dopo la pausa estiva, quindi. Allora, la prossima settimana riusciamo a fare. Aggiornatemi sui vostri spostamenti. Non di danno. Io le prime due settimane di agosto non ci sono. Okay. Cioè, da io parto sabato 3 e torno a questa puntata c'è la mia. Sì, sì, non facciamo danno. Io non ci sono di sicuro trovare. Dal 5 al 18. Più o meno come me allora. Non ti alleni per 13 giorni? Non so che mi alleno in pale al mare. Possiamo fare l'ultimo anello? No, no, quello ci vuole l'ultimo anello, quello ci voglio essere anch'io. No, no, no, quello ci tengo a creare i personaggi perché è una cosa così chiara, vabbè, facile. Vedremo come sì, si ma perché io mi sono ritrovato con questa? Quindi saliamo a 7. La pagina del che stai leggendo faticosamente del libro. Ah, del tomo! Che ah, hai stampato apposta. Fatto a leggere. Mi confermi, ah, il diario di strada. Mi confermi che ce l'hai tu? Sì, hanno ragione, però. Fa fatica, ci vuole un po'. E con questo settimo livello. Dopo però. Sì, sì dai, regalo estivo. Passiamo. Sono sopravvivente. Si vede. Beh, easy. Va bene. Vi salutiamo per averci ancora seguito. Potete seguirci sui nostri canali social di Tecos e Dregos e RGDR. E se non ci vediamo prima. Ciao. Sul podcast di Dottor Podcast.